Andiamo avanti? Ciao Vale, Massimiliano, buonasera. Mi senti Vale, Massimiliano? Valeria, mi senti? Ciao Massimiliano, buonasera. Tutto a posto, niente in ordine, vai. Si è messo un po' di questo venticello, va. Ah, ok, va. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato. Ciao Giuseppe, buonasera, va. Sì, sì, ti ascolto qua abbastanza bene. Io sono a Sassari, capito Giuseppe? Il tuo segnale Santiago Otto qua, Radio 5. Allora, vale, fallo andare, fallo andare. Come sta fischiando? Ah, quelli li ho eliminati, va, tutto a posto allora. Vale, dove sei arrivato che non ti ascolto più? Non ti ascolto più, vale, dove sei? E come va? Era una bomba stamattina. Era una bomba stamattina. Ma non è che è troppo alta la potenza magari. Va bene, va benissimo. Va bene, va bene. Sono qua per questo. Sto aspettando che arrivi in zona alta. Già va bene, già va bene. Sono qua, non c'è problema. Non te lo puoi prendere l'ombrellone. Ho sentito, ciao qua. Ho sentito che c'ha dei fischi il Valerio con quel microfono. Devo dire che è troppo alto. Bisogna abbassare leggermente. Finché a 5 non porta 4. 4-3. Il problema si risolve sempre, vuol dire, è troppo alto. È molto sensibile quello, è più dell'MC60, vale, perché c'è il parametrico, quindi devi stare molto attento alle regolazioni. Potresti anche abbassarlo perché era fortissima la radio, quindi o abbassi leggermente il mic gain della radio, o abbassi il mic level del microfono. E non c'è bisogno di ferrite, di niente. Si tratta solo di abbassare leggermente o il processore della radio o il mic level del microfono. Vale. È molto sensibile quello, essendo un parametrico spinge di più e quindi bisogna darle appena appena di meno sensibilità. Ciao Giuseppe, buonasera, ciao anche a Massimiliano e chiunque fosse nel canale 10. Come mai sei così basso Giuseppe? Vabbè, liscio liscio, ma mi sei calato anche liscio da 7, sei passato a 6. Avvicinati questo microfono alla bocca che... lì il tocco finale sarebbe un preamplificato da tavolo oppure anche da palmo, qualcosa del genere, bisogna trovare in quel che parli troppo piano tu con quella radio. E bisogna, non è il problema di acquistare, è il problema di fare connessioni lì, che io non ci sono buono, dico la verità, perché quella puntale non ci vuole un cacchio, ci vuole uno che ci faccia le connessioni. Poi devo venire lì, prendere il microfono o tutta la radio, portarmela qui, capito? Oppure trovare uno di buona volontà che venga con me ad Alghero e si fa lì. Perché diversamente non si può fare Giuseppe, sennò bisogna stare vai e vieni, vai e vieni. Bisogna mettere il suo connettore, tu c'hai un connettore lì particolare, bisogna mettere il suo connettore, tutti i microfoni vengono venduti senza il connettore. Oppure vengono fatti sul posto, capito? Richiesti direttamente così, ma quel connettore lì è un connettore particolare che non è facile da fare se uno non ci vede un cacchio perché ha puntali, capito? Il filo deve entrare dentro questo forettino piccolo piccolo e poi va saldato. E una volta Giuseppe li facevi, ti capisco, eri giovane, anch'io una volta ci vedevo di più, adesso non ci vedo un cacchio manco con gli occhiali. Ti è calata la pressione, ma dal caldo da che cosa? Ah, ci picchia. Anche questo ci vuole adesso. Vabbè. Avanti Massimiliano. Allora, qua sogno. Vediamo un po' se Valerio ne è uscito dagli alberi, Vale. Senti più forte a me che a Giuseppe. Può essere, può essere. Io su Alghero non ho nessun problema. Lo sai, quindi puoi essere in zona d'ombra quanto vuoi anche sotto l'ombrellone, per me non ci sono problemi. Ma ti sento, guarda, non c'è problema, va. Hai sentito da ti ho detto che stai parlando con Bismarck, quindi è così, e vabbè. Vabbè, io sono salito su, Massimiliano, a dare un'occhiata, ho fatto un po' di lavoretti sul diploma e mi si stava staccando l'occhiello del cavo proprio di connessione, perché pelle non ne ho su, è tutto occhielli, evidentemente il vento non era agganciato bene, quindi l'ho rifatto nuovo, però ho notato il della direttiva grande, che si sono staccati quelle che vanno a chiudere proprio il montante dove c'è attaccata la gabbia, sono andati male i dadi di sostegno, capite, sono staccati due bulloni, ecco perché a volte mi si gira la direttiva, quindi preparati, dobbiamo fare un lavoro molto veloce, ma bisogna essere in due. Adesso mi faccio dare dal collega il trapano a batteria a carico con punta da 6 o da 8 nuova, capito, si fora tutto il tubo, prima si posiziona bene l'antenna, devo mollare, quindi mi serve una mano, mollare i dadi che ci sono con i bulloni, che appunto non fanno girare come un telescopico, diciamo, che non fanno girare il portagabbia, e le metto una barra filettata da 8 passante, capito? Quindi ho bisogno della mano. Non problema, siamo qua. Soprattutto per la scala, perché ci vuole la scala appoggiata al sistema, e bisogna essere in due per mantenere la scala, insomma, fare un foro passante, le metto una posizione di barra filettata in acciaio, vedrai che lui non va più da nessuna parte. Allora i dadi erano puntati, quindi molla oggi, molla domani, e lì c'è molta pressione su quel piantone portagabbia, c'è un sacco di peso, quindi il vento è stato molto molto forte in questi ultimi tempi, e sono partiti due fermi, diciamo, e quindi adesso glielo facciamo passante, così non parte più. Ok, è più la sicurezza, capito? Da solo, lo posso fare da solo, ma non sono sicuro, meglio farlo in due, ma si vede un pomeriggio, lo facciamo, adesso domani, è perché domani si libera, ma non c'ho l'officina aperta che è chiusa, ci siamo solo noi in giro e basta, ma martedì mi faccio dare, o fine settimana mi faccio dare tutta la cosa, capito? Tanto sono libero di sabato, perché lavoro di domenica la prossima settimana, quindi un attimino ti fai una scappata e lo facciamo. Va bene. Che prendi, Giuseppe? Beh, io direttiva 27 non ne ho, non mi interessa. Io la direttiva che ho è 10, 15 e 20, è manda amatoriale, poi c'è una monobanda per i 10 metri che mi serve perché è abbastanza efficace per i segnalini piccoli, capito? Però sempre bande amatoriali, direttiva per la 27 non ne ho io. E infatti chiedi permesso a tuo nipote, insomma, che stai facendo TY e ti arriva qualche bastonata, ti fa passare la pressione subito. Avanti Massimiliano. Va bene, non c'è problema, fate provare per fine settimana, sabato mattina mi faccio un salto e si fa, tanto è un'oretta di lavoro, non c'è problema. Va bene, Valerio, dove sei arrivato? Già va B, a Travaglio. Va bene, ok. Avanti Giuseppe, ti ascolti, sì. Sei tranquillo. Andà bene. tutto Roger King e K Brioscia. Va bene, non problem. Oh Valerio. Qua comunque c'è Santiago 9 qua, Sto salendo, aspetta. Sono poi in basso, devo far salire. Meglio 9-5 qua, andiate a andare in visopra come lo senti. Thank you. iniziato tutta la situazione, vale? Vedo un po' se ti piace, gatto gatto. Secondo me se lo metto in basso dove ti ho detto è perfetto, anche più in ascolto e anche dà meno fastidio al passeggero, secondo me. Vediamo un po' come fare. Ma quindi cosa faccio? Ce lo butto? Sì, no, no, vieni qua. Andrà bene lei, allora. Ok. Soprattutto è nuova. Adesso ti mando una foto accesa. Minchia, che bella che è accesa, vale. Tutto illuminato, già, hai capito, no? Come quello che c'è in macchina, che ha LED, dice Smitter che viaggia, e quindi il segnale lo vedi bello quando si muove, no? Ma questi, vedi io, radio di ultima generazione, sono riuscito ad avere le radio tutte con lo Smitter analogico, ma il digitale non mi piace, assolutamente. E queste radio hanno sia il digitale che l'analogico, io uso sempre l'analogico, capito? La lancetta, voglio avere la lancetta, a me questi LED che si illuminano non mi piacciono. Questo non è di LED, Ocla, questo è a Smitterino, guarda Vale che te l'ho inviato. So che la tua è analogica, Massimiliano, no, sto dicendo questa, hai visto anche quella grande HF, sono tutte analogiche di Smitter, perché non mi piacciono le digitali? No, io non le ho mai avuto e non le voglio mai avere. Vale, adesso ti mando anche un'altra cosa, questo però devi sollevare un po' il sedile per farcelo stare sotto. No, bestiolina che ti manda qua. Una qualcosa va toccata, voglio solo pensare che si usano i camionisti, no? Massimiliano non è camionista, quindi ce l'ha e basta, però è finché quello prendo posto in una macchina grande, mamma mia come sto. Che ti ho mandato anche a te. Sì, anche il comando a distanza. Bello, bello, bello, bello. Quattro finali questo, eh? Quattro finali? Quattro fila questo? Sì. Allora, sì. No, stai uscendo tutta la tracchiante. Cosa vuol dire tracchiante? Guarda un po'. Sei a rate. Sì, mi hai toccato, ma sì. Cosa vuol dire tutta a rate? Guarda un po'. Forse perché ero lontano, cioè mi avevo tolto le cuffie. 600. Beh, altro che batteria qua ci vuole. Questo è nuovo lo stesso, questo è nuovo davvero. KK, e se vedete se funziona sempre quel pomellino di dietro, capo. Quello è per la M, 24 volts oppure 12 volts? Quello è 24. Che miseria. Se era 12 ci facevo un pensierino io. E l'alimentatore buono ci vuole, era 24. Vabbè, l'alimentatore già c'ho 60 amperi, io non ne ho problemi. Però è a 12, capito? Minime, ma con 60 amperi non fa niente, te ne dà neanche la metà. Oh, vabbè, allora mettiamo a 100. 100 amperi. Vabbè, però a 24, bisogna trovare un alimentatore a 24 a 100 amperi, non ero lo truffi. Giuseppe, hai visto come c'è Massimiliano? Tu vuoi uscire così? Te lo compro il microfono con l'eco? Giuseppe, va bene, rispondi al telefono allora. Vai, va lì. quello è nuovo nuovo lo stesso. No, claro, quello a casa già si può usare, basta fare un alimentatore a 24, capito, quello si può usare tranquillamente. Tu sai questa foto? Ah, ecco, non questa me l'ha mandata, ti sta ascoltando. Mi sei rientrato invece di ascoltarmi. Brutto cane morto che non c'è altro. Ah, ciao Gigi Vulca. Quello è un alimentatore, Clario. Però mettiamo anche il camion. Vedi quello col 750 che c'avevo tutto abbinato quello lì. Madonna che bestia, ciao Gigi. Ben riascoltato, infatti mi ha messo chiara che mi paria Valerio, infatti cosa mi hai mandato Valerio, invece ho letto Vulcano. Ciao Gigi, ben ascoltato, buonasera, questo è un bel sistema, questo sì. Vedi che ci sono 28 da una parte e 13 dall'altra. Sì, sì, sì, ho visto, è bello, bello, bello, bello, è ingrandito, sì. Questo è un buon sistema, questo ce l'hai a casa tu? È positivo, vedi che c'ha tre tasti sotto, fa 50, 50 e 50. Se non ti bastano 50 fai 100, se non ti bastano 100 fai 150. Tre tasti, hai visto? Madonna che bestia, e cosa ha fatto il alimentatore? Tu l'hai fatto? Se ti dico che l'ha fatto Giovanni l'originale, lui l'ha fatto. E l'ha fatto anche a Tommaso, quello di Cagliari, e se l'ha fatto per lui. E con la carta del computer ha comprato i cose e l'ha fatto, i moduli, e non costano neanche molto tanto, e costano, aveva pagato 30 sulle, no, 20, non mi ricordo se, neanche, mi pare di 27 euro l'uno questi cose del, questi alimentatori che li ha messi dentro. Che miseria, capito, a Giovanni non originale, bello, bello, bello, beh, con quello non hai problemi, Ok, faccio girare, vai Massimi. Ciao Gigi, buonasera, ben ascoltato. Hai visto quello che c'hai tu, tutto in alluminio, da 50 ampere qua? Ma quello ci sono anche da 100 ampere, 120 ampere, no? Ci metto molto a procurarlo io, capito? No, non hai capito, no. Ne buschi altri tre di quelli, e ti fai 24 e 12. E c'hai gli 80 ampere, tranquillo. Sì, ma quelli è facilissimo per me procurarli, capito? Perché sono alimentatori che noi viviamo nei telecontrolli, quindi non abbiamo problemi. Hai visto una ruota a te, adesso mi ho mandato da 50 amperi, uguale a quello, non il prox, è quello che uso con questa radio, ma ne ho un altro da 50 amperi che è sotto, non te l'ho fatto vedere, quello 50 amperi, continui, vanno molto bene, ne prendo un altro da altre 50, lo metto in attaccati tutti e due, uno sopra l'altro, e facciamo 100 amperi, non è un problema. Vai Valerio, senti a Gigi Vulcano, sì. Bene, Vali, ascolta, io sono solamente un 4 watt però, che sto provando un apparato che mi ha lasciato un amico, infatti ero in ascolto e stavo regolandomi in base a come modulava, quando parlava Claudio, mi stavo regolando lo Smith e regolando la radio, anzi l'ho dato un po' di aspetto, un po' di radio e di picchi di modulazione, comunque sono contento che l'ho lasciato a 4 watt e mi ascolti anche Alghero, sono contento per questo, e poi non so come sta andando di radio, come sta uscendo di radio. Aspetta Claudio, come che l'ho aperto Massimiliano, gli ho tolto un integrato per farlo arrivare a 18-20 watt di P, gli ho tolto l'integrato di come radio Massimiliano. Buona, va bene oggi. Va bene, un microfono gli ho adattato uno dei miei qua, di quelli che ho io, non so neanche se... Niente, poi come radio comunque è buona, giusto? Come cosa è buona? Buonissima. Buona Gigi, buona, 5 perfetta. Perfetto, no, mi interessava quello, no, è di cosa? Di Pinuccetto, è un tornado e gliel'ho mandato gli ho tolto una cosa e l'ho aumentato di un po' di picchi di modulazione, dai. Gli ho tolto quel sistema, quella protezione che c'ha, e l'ho fatto arrivare da 10 a 18, 19 fa. Bene. È uscito stamattina Pinuccetto, stava rientrando in paese, capito? ci ha mandato questa foto e quindi l'ho azzannato ad entrare a Gigi, e da tanto anch'io che non ti sentivo oggi. Vabbè, non è che viene a Sagana e c'è in radio la gira, c'hai altre cose da fare, beh. No, adesso stavo facendo questa cosa, però se io entravo non facevo più niente, l'ho chiusa, me l'ho sottratta ascoltando a voi, ma già sapevo che andava bene perché mi sono ascoltato su un'altra radio, e l'ho tarata a 9:30, se l'ho tarata a te. Quello è il mio segnale di te più o meno, vai. E l'ho messo così, non ho guardato quello di Massimo perché andava troppo oltre, allora mi sono basato sopra la tua cosa, dai. Sì, più o meno, devo sempre così dire a te, 25:30, è quello il segnale, anche tu stai arrivando molto bene, molto forte. Allora va lì, vamos! Sono salito, appena sono arrivato a casa che ho lasciato a te su a dare uno sguardo per vedere cosa ci voleva, infatti mi sono accorto che c'era questo occhiello che era un po' mezzo malandato, quindi l'ho rifatto nuovo, e poi mi sono accorto di questi due ferma, questa praticamente telescopico che mantiene la gabbia dove sono saltati due saldature per stringere il tubo centrale, quindi devo per forza forare e mettere il passante in acciaio, perché altrimenti col vento mi si può girare l'antenna. Lo farò fine settimana con Massimiliano, con la speranza, ma ce ne sono altre 4 già piene, però lo riforzo così e basta. E ti dico che quando sono salito la prima volta, quindi dal mezzogiorno all'una, stavo bene. Sono salito poi dopo pranzo, già c'era questo venticello freschetto, infatti io ci ho messo 10 minuti, un quarto d'ora a mettere quell'occhiello nuovo, ho organizzato tutto e me ne sono risceso, perché qua su perlomeno sta tirando questo venticello fresco e quindi è un po' così, capito? Vai Massimiliano. Il venticello, vai, stamattina non c'era niente, ma stasera già c'è un po' di... si è messo questo venticello un po' freschetto, va. No, ci devo salire, nel tempo ma non ci sono salito, va. Sì, guarda, se non vuole qualcuno ce l'ho in vendita quel linearetto là a me, capito? A me, scusa, a me stavi dicendo, Massimiliano? Sì, ho detto, quel linearetto nero che aveva provato là, la cosa tua, se ne vuoi qualcuno ce lo me lo sto vendendo, se serve a qualcuno. Avevamo provato che cosa? Avevamo provato un paio, mi sembra, ma come qual era quello che ma quello a 12 o a 24? Oh, quello uguale a quello di Giovannino. Il... ma il lineare stai vendendo tu, giusto? Sì, ma come senti? Sì, è positivo, un bel cosa che si avvicina a me, un bel satoro, sì, vicino, perché siamo vicini forse. Va così. Oh, va bene. Stavo dicendo, quello nero winner. Ah, positivo, sì. È giusto, c'era anche Giovannino, mi sembra, uno così. Ce l'avevo pure io, mi pare. Oh no, quello di Giovannino l'avevo provato io, è vero, sì. Quello, non lo so, io ho quei due 750, ne ho due, io te lo sai, quelli a... Uno è sopra, si è visto in foto, adesso è sopra quello emettatore, l'altro è dall'altra parte. Io l'ho visto, già lo so. Gappa, avanti, vale. Qualcosa ce l'ha Claudio, è già abbastanza forte lui, non ha bisogno di lineare. Lineare? Io ho lineare, a favore. Accosciamo a corrente e poi, no, va bene così, va bene. io ho 150 watt pieni sulla radio e adesso sono a 30 watt modulati, già va bene, la posizione è che io mi salva e mi avanza pure. Proviamo, tu vai a Oristano, ti parcheggi lì dove si fermano i camionisti e mi chiami a Vesetti, mi senti? Io sto scherzando, non pecco di presunzione, così è la zona, quella non c'è niente da fare. Bisogna Cici a vedere all'ingresso di Marrubio, chi l'ha accompagnato a Coso, a Cipa, a vedere come gli arrivava l'ingresso in casa sua. No, mollo un attimo, lo riprendo dopo. No, ma Claudio da Basante e cosa, stavo rientrando, io lo sentivo parlare, no? Claudio sì. Claudio ci arrivava bene. E tu sei aperto per quella zona, anche tu sei aperto quasi per tutte le zone. Il punto è che c'hai buono, tu capito Claudio, il punto tuo è buono. Infatti non mi sono mai lamentato da quando abito qua, io non ne ho problema, non solo qua e anche nelle altre bande. Non mi interessa avere grandi cose, capito? Lo sai, va lì che c'è l'amplificatore, no? Già lo sai, c'ho FL2100, l'ho sempre spento. Non ci vuole molto a collegarlo al 440 ed è un kilowatt in pieno, ma cosa serve? Consumare corrente? Non faccio niente. Rimane lì e continua a rimanere lì. Quando mi verrà la voglia di riutilizzarlo, lo utilizzerò, capito? Non è quello il problema. Oh Claudio, vedi quando c'avevi quella, cos'era, la Peugeot, che cos'è, quella nera, che aveva messo il 48 con quel lineare famoso in quella vettura, diglielo a Valerio, quello era un impianto comune. E poi l'antenna che c'avevi, l'antenna. Mica c'era una Peugeot vecchia che usavo per lavorare, vecchia per morire, era una nuova. Avevo fatto l'impianto baracchino con l'Alan 48 modificato, il B300 e un'antenna, era un'antenna di quelle a molla, praticamente di quelle tipo fusta nera, eh? Davanti avevo quella, centro capotto avevo l'antennino da 50 cm VHF, ma sembrava, siccome era blu, sembrava la macchina della Guardia di Finanza. Quando c'erano i posti di Marocco tutti mi salutavano, io salutavo la Cina Futti, sembrava la civetta della Guardia di Finanza, precisa identica, stessa antenna nera al centro tetto e nera davanti, capito, molla, proprio come li usavano loro. Ma tu devi sentire questo impianto, guarda, io dalla macchina, ti ripeto, non per dire fesserie perché ci testimone, ma io come uscivo da via d'Italia la mattina perché facevo servizio a Perfa, chiamavo Gigi, mi sentiva già dal bivio di Abbasanta, figurati tu, un impianto da paura, ma sai quando usciva bene, vale? E poi mi chiamavano tutti Gigi Vulcano. Oh, cosa, come si chiamava l'altro? Quell'altro che modulava nella scuderia di Lazzara? Gianna Voltuglia, perché era la, tra una quella radio. Ma non era un 300, era di più del 300, mi sembra, quella, quel lineare, era più grosso del 300, mi pare. Sì, non mi ricordo che marca era, però sì, era un 550, bravo, era un 550, ma non era della ZC, era della profilare a MOSFET. Non me lo ricordo, ma era una cosa impressionante quell'impianto. Già ne ho fatto poco prove, non c'era Cristo, poi alla fine facciamo uno spuntino, va bene, Piruccetto, e me ne abbiglia l'antenna, meno male ne avevo trovato un'altra. Positivo, ma andavano quelle antennine, ti ricordi, andavano, mi. Perché io ce l'avevo nella Peugeot, la ricevevo bene, casa da Buduso addirittura, no, e poi il bello che entrava bene in propagazione, ti ricordi, casa entrava casa in propagazione, entrava bene. Tu si entrava bene, andiamo a volare la macchina, non c'era vista, se io conoscevo la Perfugas, proprio da Perfugas, tu la conosci quella zona, come uscivo la Perfugas, facevo la rotatoria per mettermi c'è uno scorrimento veloce, chiamavo e mi sentivo a Sassari. Li sentivo sino all'ingresso di Sassari, non li perdevo un attimo, Gianni e tutti quelli che c'erano. Capito? Non c'era quell'eco che era la fine del mondo. È positivo. Questo alimentatore che hai visto, no? Siamo andati a fare delle prove e siamo andati a Borre d'Albino insieme a Giovannino Originale, poi lì è venuto Paolo Alfa 2 e Tommaso Civa lì a Borre d'Albino e hanno portato un lineare grosso, autocostruito, potente, un bel manno, un bel grosso, e l'abbiamo attaccato a questo alimentatore, questo che ci ho detto, ho dato la foto, però questo alimentatore noi l'abbiamo collegato a un inverter dentro l'appunto di Albino, un inverter piccolo pure, da 12 a 220, noi abbiamo attaccato questo alimentatore mio all'inverter di Albino con l'appunto in moto, abbiamo fatto questa prova il giorno e è attaccato questa metà e quella lineare grossa, abbiamo mandato roba di 1800 watt, abbiamo buttato fuori con un inverter a 220 piccolo lì che ce l'aveva Albino nel cofano, attaccato dentro il cofano della macchina. E funzionava? Sì, perché non assorbono, sono questi cosi di non assorbono questi moduli, si chiamano moduli, non assorbono molto, assorbono poca corrente e ce la faceva questo inverter. Seguimi, abbiamo messo noi, ho portato questo alimentatore grosso, e abbiamo messo un lineare grosso che abbiamo mandato 1600 adesso non mi ricordo quanto ero, ma autocostruito. E abbiamo fatto questa prova. Abbiamo fatto la prova con questo inverte, capito? Con un inverte piccolo che c'era nel cofano Albino, che lo operava per attaccare qualche lampadina, provare qualcosa, capito? Dicevo, a volte la tecnologia ti sorprende. Allora è stata questa cosa, Giovannino voleva provare questa cosa, capito? Lo voleva provare, siamo andati a provarlo. E lo teneva, giustamente un po' scendeva il giro di motore al minimo la macchina, no? Quando schiacciava la portate. Però avevamo un lineare grosso, hai capito? Tipo 2002 collegato assieme, che di maturi di ponte avevano portato una volta, ti ricordi Giovannino Originale? Che sei enorme, capito? Allucinante. Io mi sono messo lontano perché avevo paura che scoppia qualcosa dentro il cofano, che la macchina. Pensavo che scoppiasse le cose io, capito? Sì, vabbè, però ce l'ha fatto bene, c'è una scoppia. Per dirti, no, tu questa cosa la puoi mettere in con uno. E poi Giovannino se l'ha comprato perché invece di operare, perché lui, per quelle cose che aveva lui, aveva fatto le modifiche sulle alternature del camion, allora lui si è comprato un inverter grande, capito, da 24 che trasformava a 220, per attaccare e metterci questo alimentatore dentro, che lui se l'ha fatto preciso, questo alimentatore in camion, e non aveva tutto questo consumo di corrente, capito, di batterie. Sì, immagino, mi ricordo le prove, capito, mi ricordo le prove che facevate. No, siamo andati a Borone per fare questa prova, te lo sto dicendo, siamo andati che poi quell'ingegnere che c'era in Sicilia, questo Carlo, onda radio, diceva che non era possibile, non poteva, e Giovannino invece si attrevì e l'ha fatto. Abbiamo fatto, io adesso ce l'ho per un paio d'anni, se non di più, no, sono 2 anni in pensione, ce l'avrò più di 3 anni, ce l'ho 4 anni pure questo alimentatore, io lo sai. No, è bello, un bel sistema, non capivo cosa fosse, poi adesso guardando bene le foto ho visto appunto che è un alimentatore fatto, accoppiato così con tanti amperi, va bene. Sì, ma la cosa, sai cos'è? Questi moduli tu li compri, non fossero neanche molto cari, conviene comprarli da 50 ampere, però questi si abbinano come le batterie del camion, si fa il ponte come si fa nelle batterie del camion, hai capito? E le metti, mettendo le due, lo fai, con due fai 50 ampere a 24 e è a 13, però tu cosa c'ha? Due, c'hanno il trimmer loro, no? C'hanno un trimino questi moduli, che tu lo aumenti, non lo porti più di quando tu lo metti per esempio a 12, a 13, poi combacia, perché un lineare è 20, quelli a 24, ha bisogno di 28-29 volt, non 24, ha bisogno di 28-29, capito? E devi essere di più, tu lo fai tutti precisi, aumenti appena appena un tantino tutti quanti a uno, li porti e va benissimo, e vanno bene come le batterie, capito? Si fa il punto come si fanno le batterie, e fa 24, capito? 12 e 12 li fa il ponticello e fa da 24, hai capito? Sì, sì. Va bene, vabbè, Valerio, mandate a me il rapporto del gabbiano, non sento più a Valerio. Ma dietro sono cavi grossi come quelli della batteria del camion, mi. Davanti sono le banane, le banane così per attaccare una cosa leggera, però dietro c'hai i cosi, come escono, arrivano i cavi tipo quelli del camion, della batteria, mi dietro, per attaccare, hai capito? Ci sono i cavi grossi dietro. Ma già si vede, non è che non si vede. No, davanti non lo vedi, davanti è soprattutto lui mi ha messo il coso che ti controlla la come si chiama, adesso ne ha fatto altri, ne ha fatti ancora più belli, è una cassa di computer quella lì, e lui gli aveva assemblati dentro, hai capito? Poi c'ha tre tasti per accenderlo, se ne vuoi accendere uno, ne accendi uno, due, tre, capito? Puoi fare 50 ampere se schiacci uno, 100 ampere se ne schiacci l'altro pulsante, e il terzo fanno 150 ampere. Che vuole che sia? E a 24 sono pure a 13,8 sono 750 ampere. Sono no, si assomigliano un po' alla, diciamo, all'alimentatore del computer, mi si assomigliano un po', hanno la ventolina, tutto quanto, però non la sente la ventolina a girare, non si sente neanche, capito? Ma proprio, diciamo, dai, come si dice, silenziose. Sì, sono abbastanza, non le senti, sono abbastanza silenziose come vento, quando l'accendi che ti serve, se ti serve, ma io non lo adopero mai, perché se accendo quello, puoi adoperare quel lineare, quello del camion, con questo qua, puoi fare tutte le parti, io faccio tutte le prove quando serve a Massimiliano a provare questi lineari che li prende, li tratta per lo scavatore, quello e quell'altro, viene qua e io glieli provo sempre con questo, perché questo li fa andare, dai, c'è la potenza di farle andare, capito? Io lo credo, vai! Io avevo la 5000, in camion. E ce l'ho, me l'hanno chiesto in tante, non l'ho data, non so che ne me l'attacco, però ve la gengivi, me la tengo per ricordo. Io l'ho avuta, e quando l'ho tolta non si è ossidata, è cromata bene gli attacchi, ocla, il cavo, tutto, non c'era nulla ossidato, eppure era fuori esternamente l'antenna, c'avevo dietro la cosa. Nulla, tutto proprio lucido, ho conservato tutto, sia l'antenna che tutto ciò, il cavo, però il cavo è leggermente grosso questo mio, non è proprio quello fine fine come la 2001, è leggermente più grosso questo cavo, però è un buon cavo e non mette uscito. E anche questo, non è 58, è 58, sì, no, quello un po' più grosso. Sì, sì, come quello che avevo io in camion, quella viaggiava, a 5.000 turbo viaggiava, che è una meraviglia, troppo, guarda, io ce l'avevo, quando avevo preso quel camion lì, mi aveva dato quel camion lì, l'avevo messa nuova, l'avevo messa, comprata, era uscita, l'avevo vista in un coso, l'avevo ordinata, fatta arrivare io qua in Sardegna, la prima assoluta, poi ne ho fatta arrivare altre, e ce l'ho avuta in cambio sino a quando me ne sono andato in pensione e non mi ha dato mai problemi, e l'ho avuta a 12 anni forse, dal 2004 al 2015, sì, sino al 2015 l'ho avuta. No, allora quelle antenne lì, quella lì anche la 2001, se tu la metti a centro capotta, sono già tarate per mettere sopra la capotta, non devi più, sono fatte apposta già così, non devi, però a volte le fanno un pelino più lunga, ma appena appena. Claudio già lo sa, Claudio le cose due senate, Ussini è tornato subito a Puccio. Naturalmente la vita. Io non ci credevo, guarda, che mi avete il bordone, si è attarato a tenere la bella zia, cazzo di così, due zirate, poi uno si mette la fuori, è a posto, è rimasto a controllargli quel microfono che non funziona, appena accetto, il microfono funziona, ma non va in trasmissione, poi lo controllo a vedere. Ehi, non provetto, l'ho sentito stamattina, siamo salutati. Stava rientrando in paese, capito? C'è Giuseppe che forse tu non senti, Gigi, cos'è vuoi dire Giuseppe? Hai detto posso dire la mia, dimmi. Giuseppe. Cazzo, come mi viene l'Alzheimer, cazzo. Va bene, dai, io mi devo allontanare dalla radio, ci sentiamo a più dopo. Ehi, oh, Massimiliano, ma che radio è questa? Una alla 68. Ah, cappa, forse è il microfono, perché è un po' barattolo, molto dice, un po'... Oh, come ti ascolto un po' un barattoloso, un cazzo di tizi. Qua, tu non mi ascolti, barattoloso. No, è leggermente più cupa del solito, ma cioè, è abbastanza chiaro, non c'è problema. Magari siamo troppo vicini, no? Capito? È positivo. No, adesso è chiara, però rimane un po'... diciamo non proprio vorrebbe forse il microfono pure deve essere che vorrebbe provando a cambiare il microfono probabilmente rimane troppo vorrebbe leggermente un po' più chiara, mi capito? Però non era 48 normale, mica un microfono normale, Gigi. Sì, un 68 ha detto lui, infatti. E un 68 voglio dire. Troppo un po' barattolosa come voce, forse perché siamo vicino. Guarda adesso che ho abbassato un po' il Mickey Green. Adesso l'hai schiarita, forse perché sei troppo vicino a me. Forse era al massimo il Mickey Green, l'ho portato alle ore 3. Positivo. No, perché con l'altra poco fa un guida del 1900 ti tendi ancora a bigio, invece con questa rimane più, con quella del 1900 forse beh, devo fare un barattino di corso, ti sentivo ancora peggio, con questo ti senti un po' meglio, dai. Kappa. Va bene, dai, ci aggiorniamo più tardi. Ciao Valerio, ciao Claudio, ciao Gigi, sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Ciao Massimiliano, vai a fare, a mettere a posto e ci sentiamo magari più tardi, dai. Avanti Valerio. Valerio sta fotografando il gabbiato. Va bene Gigi, stai mettendo a posto quindi questo microfono, hai detto? Ma non aggiungare, ho fatto la radio, il microfono che non va lì, non va importante, non si era gap sulla qualche cosa o qualche filo staccato, tutto un attratto e tutto aggiunto, lo controllo, se no lo vedo, ma non, adesso non ne ho voglia, ma non mi voglio smontare nulla. Meglio così. Io buonasera. Io chi? Buonanotte, grazie. Antonello sì. A meno che non sia il demonio. Quel pederasta. Mimì, tutta la greffa, Mimì. Antonè, non ti avevo riconosciuto. C'hai una modulazione diversa, ciao anche a Marco. Sto mangiando il gelato. Ciao Marco, saluto anche a te parlando. Buonasera, scusate l'eruzione. Sì, Antonè, avevi una voce fine. Cioè, si capiva, però, caspita, un po' diversa dalla solita. Modulazione girato di Rospin, questa è, del cornetto. Saluto neanche. Siete che ci sono qua sul canale. C'è Gigi Vulcano, Valerio, Giuseppe, Massimiliano si è allontanato un attimo, vai. Avanti Gigi, per Antonello e per Marco. Ciao Antonello, buonasera, ciao anche a te Marco, avanti Marco. Ciao lui, notavo che eri appena fuori frequenza, si è spostato molto verso dietro si è spostato, però in AM non si riconosce quasi, capito, non si nota, l'ho notato io un po' per caso. Sì, perché c'ho 27.014, mi sto vedendo adesso qua, adesso è 27.075, guardate, è perfetto. Ehi. Ciao Claudio, ciao a tutti. Antonè, con chi sei? Con tuo fratello? C'ero io il suo giorno, fino alle 6 di sera, non mi addormento a casa, da una cosa all'altra. Oggi meno male mi c'ho giornata libera, quindi sono più tranquillo, ma ieri proprio, mamma mia, appresso questo cazzo di pronto soccorso, c'era da morire, c'era, senza mangiare, senza bere un cazzo, mi sono bevuto tre latte di birra come se fossero un coso, cosa si posso dire, una mucitrice del latte mi sono mangiato, mi sono bevuto, poi mi sono mangiato un piatto intero di spezzatino con le patate, ci sono le patate, non ci riesco, ma ieri notte, io ingoiato del tutto e dicevate pure, avevo la fame. Bravo, mangia che devi crescere. Purtroppo anche oggi non siamo andati da nessuna parte perché mamma non va da nessuna parte, non ci sono soldi nemmeno per la benzina, fine mese, fine dei soldi. Cioè la benzina c'è, però capito, uscire, non potete pigliare manco un caffè, brutta è. Cosa vado a guardarmi con la vecchia barbona che abita a Platamona? Sì, che c'è, vabbè, se vuoi bere qualcosa te ne invito io, da certo, a quello mica devo andare a barbona, che sono di cose, di bave, di circoli, se mi abbasso di radio. Ehi Antone, ti sento appena, sei così fine e basso di radio, però, mamma mia. Quanto se vuoi andare a berti qualcosa, basta dirmelo. Sono a casa, facciamo un giro e non c'è problema. Oggi mi ha giornata libera, stasera. No, non devo uscire, ci ho svegliato anche adesso. Vai Claudio. Scusate che sono al telefono con un collega, Massimo. Ehi. Antone, Giovanna libera. Certo, te se la godi di più. Cioè dice il sole, però qualcuna non vuole mai uscire e ce ne siamo ogni domenica a marcire a casa. Io me li faccio dopo, dai. Va bene, non c'è problema. Volevo quella gente che ci avevi tu, ci mettiamo d'accordo. Oh, non ti capisco. Se bacio i radio, Antone, dai. Aspetta, volevo quella cosa che avevi tu a casa. Quello che fa quattro bande. Se ci mettiamo d'accordo, ho detto. Quadribanda? Ma non è in vendita. Allora va bene, non c'è problema. Oh Luigi, il quadribanda mi volevo far vendere, ma te le immagini? Non lo so, io non vendo mai niente, dico la verità. Io c'ho cosa che non me ne faccio una, ma non la vedo, tengo tutto qua. Non vedo nulla. Io tanto quando me lo vedo poi non c'ho né soldi né roba più. Ehi, e così facevo io. Me le mangiavo i soldi e non ce l'avevo più. Nei soldi e nell'oggetto, nel baracchino per esempio. Ehi, Natalino, sei all'ascolto? Ma non è più entrato Natalino? No, ma lo so, io perché stasera ero qua, ero facendo un baracchinetto al corso. Ho aumentato un po' di potenza, di ricorso, di picchi di modulazione e niente. Ed c'era accesa la radio, era un ascolto però, perché poi mi serviva ascoltare per fare delle regolazioni. E allora era un ascolto e regolavo con un Claudio e via dicendo, me la son tarata questa radio che non è mia di Pinocchio. Deia. Cosa te volevo dire? No, che Natalino ieri non si sentiva tanto bene. Non aveva voglia di parlare, oggi non si è sentito, spero se ne sia andato a fare un bel giro al sole. Qua ho visto la nuova parata, me ne sono stato a casa anch'io, mi sono anche assopito, poco fa ho sognato cose varie. E poi mi sono alzato, ho acceso, ho sentito gente. Sì, bueno, io gli orari miei sono, adesso che sono in pensione, la mattina 7 qualcosa mi alzo, ma vado a letto mezzanotte, a volte anche l'una, però no, durante il giorno non mi corrico mai, però sto molto fuori di casa, fuori, può essere nel piazzale, può essere nel giardino, ma sto molto fuori di casa io durante il giorno, non ci sto dentro casa, capito? Ecco perché non mi sente molto alla radio, perché non ci resisto dentro casa, io me ne vado fuori, poco fa mi ho lavato tutto il piazzale stasera, dopo pranzo mi sono messo con la pompa, ho fatto un po' di pulizia, ho lavato tutto il piazzale, mi hanno lavato bene, e niente, adesso mi sono ricordato che ho lasciato l'albero, ma l'albero, la pompa andando a me a rinnovare, ma sono passato allo piazzare, va. Che mi sono ricordato che stavo lavando il piazzale, che c'ho l'acqua andando dalle due, andando alla piazza dell'arancia, allora mi sono detto, che ci ho parlato, mi sono ricordato. Ehi, vabbè, già me li farò. Perché poi non ho soldo, tutto anticipato prestato a mamma, sono oltre 200 euro che mi deve, chiaramente io senza poter spendere nemmeno pigliarmi un caffè non esco, poi sai anche la benzina eccetera, vabbè dai. Ormai mamma imbezzende, mi le piace stare tutta la sera alla TV, sdraiata, non è più attiva come prima, purtroppo. Ma quanti anni c'ha? Sembra giovane quando parla, a volte ho sentito parlare lì in radio. Beh, diciamo che ha passato i 70, non vorrà dire l'età esatta, ma inizi 70, dai. Ah, che appa, dai, 70, io ho qualche professore l'ha compiuto 70, qualcuno l'ha compiuto 80, mie sorelle. E va bene, dai. E se non sono discreto, tu quanti anni c'hai, Marco? 45. Sì, già non ho perso il conto, sì, 45. Però sto diventando sedentario anche perché... Vabbè, le amicizie erano quelle che erano, quindi mandate al diavolo. Anche fisicamente sono un po' a terra, però in estate vado sempre al mare. La moto ce l'ho ferma che per causa appunto era senza assicurazione, quindi è rimasta ferma 6 mesi. Ci rifacciamo un mese entrante, ci sistemiamo tutto, almeno in moto esco più volentieri in città. Che con lo scooter, diciamo, è uno scooter, fai un bel di commissioni, in macchina non puoi, non ti puoi nemmeno fisicamente fermare in certi posti, con la moto sì invece. È positivo, positivo. Io perché preferisco meglio stare in campagna come sono, vabbè c'è tutte le comodità che vuoi qua, però almeno... Niente, io giornate belle vado giù in campagna, ne raccolgo un po' di foglie da terra, delle piante, mi controllo, mi mangio una nespola dall'albero, mi controllo le... non ci sto dentro casa, esco fuori, non c'è all'aria, mi sempre... Capito, sto fuori nel piazzale, pulisco, faccio... non faccio niente, però sto lì, capito, fuori, mi piace il verde, la campagna, e sto... Capito, se c'è caldo mi metto all'ombra nell'albero, però sono fuori, camminando a piedi, passa qualcuno, parlo con qualcuno dalla strada, a distanza, però non dentro casa è la morte mia, non ci riesco, no, è più forte di me, solo se è una giornata fredda che sta piovendo, sta nevicando, ma in giornate belle a me chiudermi dentro casa è come mettermi in prigione, capito? Ehi. Adesso il periodo è il migliore per uscire, qui c'è un sole, però non c'è troppo caldo. E io alla fine devo stare a casa per colpa di altri, per prestare i soldi agli altri, devo starmene seco e pesto io, no, non esiste, no, non più. No, che ti ammali tu, quello è il problema. Io tutti i giorni esco, non mi frega niente, io tutti i giorni esco la mattina, vado, mi prendo il caffè al bar, mi leggo il giornale, faccio due chiacchiere con qualche amico, ci passo la mattinata così e niente, poi allora il pranzo torno a casa e come pranzo sono uscito da casa, fuori, poi c'è sempre a casa, ma non dentro casa, ma fuori di casa, nel piazzale, fuori, nel giardino, non lo so, a fare qualche cosa, giusto qualche pianta, ma senza attaccarmi, però sono lì, mi sistemo la legna, però sto fuori, non ce la faccio a stare dentro casa, poi a quel caso non mi corico, perché se mi corico divento molle e non ho più voglia di fare niente, se mi corico io dopo pranzo o di sera così, mi fa molle, sto male, sto tutto no, capito, non sto bene come cosa, invece l'aria fuori mi sento subito bene. Perciò io sono così, perché se riposo dopo pranzo poi non hai proprio voglia di fare nulla. Avanti, chi è entrato? No, so che se... Qui Natalia stavo chiedendo di te prima. Se ti intende, come ti senti in poche parole? Sei meglio rispetto a ieri? Ehi, a ieri l'ho bruciato un braccio, ho vomitato un'altra volta. Ma dici che è una forma influenzale o era tutto quello successo nei giorni scorsi? No, nervi accumulati erano sicuramente, perché oggi mi sento bene. E caspita, l'anima dei nervi è andata lì. Poi vabbè, tu devi stare riguardato anche per il cuore, così non ti devi incavolare, capito? Anzi, speravo fossi uscito con tua moglie a vederti il mare, a stare un po' al sole, capito? Come se sei al baracchino. T'ho chiamato poco fa, ma non c'eri. C'è adesso Claudio al telefono, Luigi Vulcano e Pomponio che esce a basso di radio, come sempre. Fine, fine esce. Antonello, vai avanti per Natalino. Non rispondi. Ha detto che sta mangiando il gelato alla birra, mi Pomponio. Vai Luigi per Natalino. Ciao Natale, buonasera. Ma non è proprio... Allora, su, faceva questa cosa, c'era un'influenza in giro, tanta gente c'era così, che faceva come a finire vomito e coso e capogiro e stanchezza addosso. È un virus che c'è, attenzione, dura uno o due giorni, non di più, L'ho avuto anch'io un giorno così, che con questa pesantezza di stomaco stavo uno straccio, però l'indomani stavo meglio. È un virus che c'è, a molti ci hanno fatto due o tre giorni pure che stavano male. È un virus, Natali, è un virus che c'era in giro, che viene come vomito e capogiro forte pure fa. No, a me mi è venuto uno starnuto e ho cominciato a vomitare. No, Natalino era buriato per altre cose, perché, vabbè, piazza l'antenna grande, riceve meglio, ma c'è per il QRM a 9-10 a tratti, un disturbo che sale, fa trrr, no, e non ascolta più i bassi quando lo fa. In più qualcuno in fondo al vicolo, cioè non disturba di fronte a casa, non disturba la sua antenna, uno in fondo al vicolo che sicuramente ha l'antenna messa male, si è lamentato, ha mandato qualcuno prepotente a lamentarsi, ti chiamo la polizia, ti chiamo qua, Sarisi della serie Uomini Duri, no? E poi è andato a raccontare a tutti gli altri ignoranti della zona che Natalino stava disturbando tutti i televisori, stava dicendo che si doveva togliere tutto, togliere l'antenna addirittura, figurati che pretese che hanno. Oh Luigi. Già lo so che funziona così, già lo so, vedi, a me non mi ha detto più niente nessuno. Non mi ha detto più niente nessuno e boh. Capito? Perché prima, già quando ci avevamo messo l'antenna, tutti disturbavano la televisione, uno c'aveva un problema e quando ha cercato di interpellare l'Ecoposta, perché bisogna, non è a Sassari ma devi chiamare a Cagliari, quando gli hanno detto il costo che gli costava e se poi non era colpa mia o colpa cosa, forse altri problemi, si pagava tutte le spese lui, ma spese salate però. E allora ci ha rinunciato, ci ha chiamato un tecnico e ci ha messo a posto l'impianto. E adesso funziona bene. E così faranno da me. Io adesso sono costretto con questa scatola di fiammiferi a parlare. Non riesco a piazzare l'MB+4 qua, se no almeno un po' meglio del radio sarei uscito. Mi sta chiamando, no, arrivi benissimo Natali, arrivi benissimo, c'è uno che ti sta chiamando, avanti chi stava chiamando Natalino. Adesso sono io, Rizzo, ero qua impegnato con un gabbiano che era per Basisi li hanno rotti a me questi fetentissimi cornuzzi. E la buttiamo giù allora. Abbiamo fatto le prove ed è così, mi sparisce lo schermo. E allora cosa fai? Fai con quel palettino di mamma mia. E cosa ti credi? Lo stavo disturbando anche così. Se c'è l'antenna su tutta messa male, è logico che lo disturbo anche così, però io sto aspettando che vengano a controllarmi. Già vengono domani, ci vogliono 600 euro di intervento alle scomposte, a meno che non siano ricchi questi, e poi le scomposte controlla anche l'antenna della persona, capito come lui, non... Certe persone non pensano minimamente che possa dipendere dal loro impianto, capito? Dicono il baracchino che disturba, punto e basta. Non metto in discussione il loro impianto che magari è pure fragile come. Sì, ma è così, sono un sacco di spese, lo so da uno qua vicino da me e anche lontano da me. Che la... Secondo lui era il baracchino e non gli fregava niente, quello che fosse, lui è fatto e ha chiamato e questi gli hanno detto, ascolti, cerchi di controllarsi l'impianto lì e di risolvere la cosa, perché da Cagliari mi fate tutto da Cagliari, loro adesso facevano gli appostamenti, controllavano, se poi non dipendeva da me, le spese se le pagava lui, ma le spese erano multe grosse. Un giorno mi chiama anche mio figlio dicendomi, guarda c'è cosa, dicevo beh sì, ho detto io sono abbasata adesso, a casa non ci sono, baracchino non c'è, è spento, e lui non riusciva a vedere la televisione, ma io non c'ero, però ero abbasata al momento. E niente, allora ho cercato un altro camionista che è qua nella zona, c'è delle baracchine, cosa per se c'era, si sentiva parlare qualcuno, non si sentiva nessuno parlare a baracchino, ma con la Sassari addirittura. E niente, no. Allora si è fatto controllare l'impianto, ma poi un giorno mi ha detto, guarda, c'era l'impianto, è una casa nuova, mi ha pagato lui all'antennista a fare tutto l'impianto, capito, lui ci partiva da su a giù, scendeva nella cantina, le cose, c'erano tutte le televisioni, la tavernetta, e funzionavano tutti, aveva fatto tutto centralizzato, però aveva fatto male il lavoro e non era il baracchino, era altra cosa che disturbava, capito? Eia. Qua di fronte uno si è messo l'antenna nuova, no? Si è cambiato l'antenna e a parte che si è fatto mettere un'antenna di quelle UHF direttive, quelle ad alto guadagno che si usano in zone remote, cioè da noi non servono quelle. Mia zia l'ha usata una di quelle e dice che anche puntando la Monte Oro che davanti vedeva male, non vanno bene. Vabbè, passi. Il tecnico ha fatto uno schifo di impianto, per cui si è lamentato con me, no? Beh, è successo invece che ha richiamato il tecnico e il tecnico si è accorto dell'errore, capito? Si è accorto dell'errore. Quindi un problema fatto dal tecnico era. E infatti dopo gliela ha messa a posto, come vedi, non ha sentito più nessun disturbo. Guarda, bisogna sempre battagliare, bello essere in casa isolata, lontano, abitare lontano da tutti. Sì, comunque io avevo un problema con il negozio in primo periodo, con il negozio alimentare del supermercato. E l'impianto gliel'aveva fatto, ma delle cose, delle casse, delle cose, aveva fatto lo stesso tecnico, aveva fatto. Quando gliel'avevo chiesto, quello mi aveva detto, ma non è che te l'ha fatto il tale, no? Che dirottava stesso questo qua. Cioè sì, lui me l'ha fatta, Omar Pintus, si chiama così, l'ha fatto lui. E allora ho detto, lo stesso l'ha fatta il signor Gianni, ho detto, e niente, passa un camion col baracchino, che è normale, lì entra nel negozio, e lo sento quello che dicono i camionisti, e allora se facciamo parecchie qua. E poi hanno aperto la camionale e fanno il giro. E lui sentiva tutti i camionisti dentro il negozio quando passavano qua sulla 131, hai capito? Passavano davanti al negozio, al supermercato. E poi ho visto che poi parlando con questo, che si è sempre con i figli, col coso, ho detto guarda che è un problema, così, cosa? Poi chiama un tecnico, cosa fa? Ho provato ad attaccare 700 watt un giorno, l'ho fatto le prove, ho attaccato 700 watt, io lo posso fare, volendo fare. Attaccato 700 watt, nulla, non disturba nessuno, il supermercato non disturbo più, con 700 watt, non con 10 watt, no. Ma doppio Ru, ma lui è, sembra fa più coso, un genio. Ciao doppio Ru. Sì, arrivi da Usine, certo che arrivi, è Puglia. Ciao già Marco, se vado a spostare l'acqua dal mandarino lo metto all'arancio. E io, ciao Gianni, dai, se mi senti ancora. E qua è arrivata la da mangiare, dai. Quindi rimango in ascolto per un bel pezzo, che è bollente qua la roba. Ok, ciao anche a Valerio, non l'avevo salutato oggi ancora. Se mi ascolti, dai. Ehi, ciao Giuseppe, Santiago 4, ma lo sento, dai. È sempre bassino, appena ci avrà la scarpetta migliorerà molto, e anche l'amplificato, dai. Ehi, vado a tirare con l'acqua, intanto lo lascio acceso qua, e poi il salto, sposto l'acqua che c'è tra le due, quell'acqua andando lì a quel mandarino. Ehi, Natalino. Ehi, stavo mettendo un po' di attacca a questa manopolina che metti sempre dei canali. Eia, quindi anche con quello disturbi. Cioè, se mi disturbi con l'omologato è palese che il problema è suo. È palese. Basta mettere le manine in tasca, chiamare il tecnico e fargli fare l'impianto bene. Possibilmente senza amplificatori. Magari alzare un po' più il palo in modo da vedere Monteoro, ma senza amplificatori. Ormai non è più come una volta che ci volevano amplificatori, il segnale era basso, adesso il segnale ce n'è a buttarne ce n'è. Cosa vuoi amplificare, va? Ma questa è una casa bassa, c'è il mio palazzo che copre l'antenna, se non hai l'amplificatore non vedi. Così è. Vabbè. Si mette a posto il cavo e l'antenna allora. Se lo vuol fare, se no si tiene disturbo. Semplice, no? Ehi, lui poi se lo tiene. Tanto se chiama vogliono 600 euro subito per intervento, per il sicuro, no? Se no, andrà a fare. Io Claudio, con questi colleghi, mandali via. Sì, magari è successo qualche guasto, ma... Sì, ma stanno sempre a rompere le palle a lui. È inutile allora che lui stia a casa e lo assillano ogni sera, perché non sanno cosa fare. Purtroppo è così, è pagato per essere reperibile, capito? Se chiamano lui vuol dire perché lui è reperibile. Cioè gli possono rompere le scatole qualsiasi ora, il giorno e la notte, allora perché non gli pagano 24 ore di servizio, 24 ore su 24? E che volete dire io? Purtroppo è così. Allora leviamo tutto a Natalì, leviamo antenna, tutto, ci buttiamo tutto. E a Natale vedrai lo scherzo. A Natale, sì, a Canda Natale. Ma ho bisogno che ci sia casotto. Ah, il regalo di Natale, bene. Il regalo di Natale. Meglio a Capodanno. Ehi, a Capodanno, va. Qua da casa di quello lì, tanto sono tutti chiusi in casa e ti fuma così dall'antenna, quindi a Rafa. Così. impara. Delinquente. Con quelle verdi. Allora tu, che la mano di Dio i vasi, ripassa tutto il vacchino. Venga, sto aspettando di uscire a freddi qua con la roba. Quanta pazienza. Gianni ha chiuso perché c'è gente in macchina. E vabbè dai. La garuva non fa di picchio, ma vedi che giovano il capo di fuma già. Oh, qua sul giornale non è uscito nulla, Sul giornale sulla Nuova non ho messo nulla che io sappia. Di quello che si è buttato l'altro giorno. Ieri. Ho caduto, ho buttato. Non si sa, non si sa nulla. Boh. Perché è stata così fulmine la cosa e manco i giornalisti sapevano nulla. Signor. Non si è saputo nulla, non hai saputo niente, tu, se si è suicidato, se è caduto quello, o se ce l'hanno buttato. No, io non chiedo nulla, non chiedo. Non ho confidenza con questi nuovi che ci sono di fronte. Ha cambiato tutto, prima c'era altra gente, quella... tutta gente diversa, cioè, non ci sai chi ci ha, vedi un via vai continuo. Non si sa più chi ci abita lì. Non chiedo nulla, no. Non uscirà sulla Nuova Sardegna. No, è successo tutto in fretta. Mi hanno portato via. Non... giornalisti manco. Non credo che sapessero nulla. Beh, dai che mi dedico alla pappatoia, dai, a più tardi. Piuttosto. Pomponio, ci sei? Pigliarla. No, non c'è. Va bene, a dopo. Vabbè, tutti spariti siete? Marco sta mangiando. Capito. Vabbè, Natale, sta a posto. Sì, sta a posto. Già mi sento meglio. Io ho vomitato un'altra volta, ho vomitato due volte, ho vomitato. Sì, vabbè, qualcosa, qualche virus, qualcosa, dai, niente di particolare, non si preoccupa. L'importante è che stai meglio, dai. Novità, si è visto qualcuno? Nessuno? No, no, nispa. Allora perché non l'hai attaccato il president? No, vabbè, mi ha detto che non fa. No, non funziona, adesso ne sta... il MBQ4 lo volevo attaccare qua, non vedo quello di sito, ero troppo nervoso, boh, non lo so, non riesco a trovare la portante, la ricezione l'ho trovata. E perché non sei sereno, non sei tranquillo, quelle sono cose da fare con tranquillità. Ok, ti rimetti e ci riprovi, va bene? E sono sicuro che ce la fai come hai sempre fatto, quindi non problem, non problem, capito mi hai. E c'era Valerio, io poi sono, mi sono allontanato. Valerio, stai andando a casa? Ok, va bene, così mi fai sentire quel microfono e facciamo due ritocchini e si è a posto. Va bene. Natalino, lo senti? E allora te la prendi come di vostra madre. Allora te la prendi come di vostra madre, detto Natalino, se non lo senti. Ehi, ehi, ehi, vabbè, adesso già entri da casa, dai. Attacchi prima uno, che così regoliamo il microfono, poi se c'hai il QRM attacchi l'altro. La soluzione qui ce l'hai, non perché ti lamenti, QRM, QRM, spegni quella radio piccola e attacchi l'altra che c'hai, che è più selettiva, capito? E vedi che QRM non ne hai. Certo che sì, certo che sì, tanto quella non ha bisogno di scaldare niente. Va bene, va bene. Minchia, già le 7 sono. Fitto, come già voi. Tanto appena mangiato, adesso devo riuscire perché l'ho portato a fare oggi. Mettiti il catetere. Pone di pure di due in capo il catetere. O il pan. gli metti? Il panolino? Il panolino glielo posso mettere con la cuffietta, ma il catetere si mette malato, il mio cane non è malato, capito bello bene. Mamma ha avuto la faccia di chiedere di fronte se quel ragazzo, come sa, mi dice che lo stanno curando. Non hanno dato dettagli, non so se fossero i familiari, hanno detto che lo stanno curando in ospedale, quindi già è vivo, dai. Oh, che faccia che c'ha mamma, ho avuto il coraggio di chiedere, anche perché era gente che io non conoscevo. E allora non si è buttato per ammazzarsi, se no non era così. Vabbè, speriamo bene, non si avrà mai niente a nessuno poi a capire perché. Va bene, ok, avanti Natalia. Se l'immagini questo Marcolino Condo. Che poi non si è capito se sia caduto o sia buttato, ma uno non cade così. Vedi, a Sorcia che è caduta una signora, ma stava innaffiando, si è sporta per innaffiare i fiori ed è morta mi ieri. Però questo mi sa di atto volontario. Ma come si fa a cadere da un poggiolo per innaffiare i fiori? Ma dove li hai messi? Un metro dopo la ringhiera? Non capisco io, cazzo, boh, questa gente che cade così, per me sono tutte fesserie. Non si può innaffiare i fiori nel poggiolo e cadere. Come li innaffi questi fiori? Ti si è appesa per innaffiare i fiori? Non lo so. Ma non lo so, forse erano rose rampicanti, sai quelle che si attaccano alla facciata del palazzo, magari si sporta. E beh, fatto sta che è caduta ed è morta, te le immagini? 71 anni. Ah, quella, boh, insomma, io non ne ho mai visto di fiori, capito? Qua tutti c'erano nella finestra le aiuole, no, quelle con le piante, apri la finestra e innaffi, se era piccante prendi lo spruzzino e innaffi con lo spruzzino. Questa non riesco a capire come ha fatto a cadere, se si è appesa facendo il gatto per innaffiare i fiori o se stava innaffiando l'albero. Eia. Fatto sta che pesa dal primo piano ed è morta. Il ragazzo è caduto, mi pare, dal terzo ed è vivo. E non c'era nemmeno una goccia di sangue. E vuol dire che non è caduto dove Maria prima si è carrozzando il bambino e ha fatto l'ampli, meglio morire. No, ma questa donna è impossibile. È impossibile. Io piante, qua tutto pieno di piante nei giorni, però sono attaccate alla ringhiera, sono all'interno, come fai a sporgerti per fare che, per innaffiare che cosa? L'albero sta ben innaffiando. O se la ricutta e hanno detto che è giù dalla giura. Non so. Valerio, francese. Alla parrera si dice, alla parrera. Allora, anche mia sorella abita lì alla parrera. Ehi, ehi, va bene. Così è. Andate lì con calma, piano piano. Quando sei rilassato, ti metti il microfono su questo monogatto. E va benissimo lo stesso, non c'è problema. Poi l'altro decidi cosa fare. Certo che mi rompe le palle non poterlo usare. E io vorrei aspettare che ha parlato Natalino. Natalino, io l'avrei usato, poi non lo so, l'avrei usato e cercando di appunto vedere insomma qualcosa, dai. Vi conto tutti e due per il quieto vivo. L'importante è lui, lo sbaglio che ha fatto è partito in quarta, perché conoscendo a te, se si fosse presentato diversamente questo lavoro è già stato fatto, sono sicurissimo. Quanto intanto, quanto tempo ci mettono a venire qui giù? Ma chi deve venire, Antoni? Chi deve venire? Questo radio non ne fa di questi servizi più. Hai capito che non ne fanno? No, non te lo garantisco, non ne fanno. Cosa vengono i carabinieri? La polizia postale viene. Ah, non era vino. Ma finita, che non viene nessuno. Non sono cose che servono per far muovere le forze dell'ordine, hanno altre cose da fare molto più importanti, capito? Ma non che non ci sia, io ti faccio una denuncia scritta, ti faccio una denuncia scritta perché tu mi stai disturbando anche in altre frequenze dove tu non puoi disturbare, lo sai come funziona. Allora ci muovono, ma ci deve essere una cosa ben chiara, capito? No, usci. E infatti, quando quello va in questura dico non è compito nostro, si rivolga a Cagliari. Guarda che una denuncia così, no? Se uno dovesse farla per assurdo, la devi fare prima qua a Sassari per potersi muovere, sia la postale che l'esco radio, va protocollata, mandata a Cagliari dà il benestare per poter muovere il mezzo, quel mezzo costa denari, tantissimi denari per muoverlo e per fare misurazioni, tu lo sai, e ci deve essere il consenso della direzione generale delle telecomunicazioni per poterla muovere. Non è che tu vai e mi serve se chiami, guardi, loro prendono la camionetta e vengono, ma buffonendici, c'è un procedimento per muovere quel mezzo allucinante. Bisogna che io veda che il tecnico li cambia l'antenna e io ripiatto tutto. Perché quelli si ricambiano l'antenna. Sì, ma infatti. Ma infatti, è più facile arrivare a un compromesso che stare lì a puntigliare, capito? E tu ti ripiatti tutto, tranquillo, sereno, e non hai rotture di balle perché non disturba nessuno tranne che a lui qui. Capito? Però bisogna sempre avere tranquillità, calma e soprattutto educazione. Questo è partito di prepotenza e tu, siccome ti conosco, hai puntato i piedi, però sei riuscito ad arrivare a un compromesso, è meglio per te e sta bene, lui e tu, tutti e due. No, ma lo sai cos'è? È che a me mi ha dato alle palle, che voleva che io chiamassi il tecnico e mi pagavo tutto io. E di non dobbiamo sforzare manco 5 franchi. Allora ti posso vedere, ti giambi l'antenna lui, ti giambi lo tecnico e ti pigliano 150 euro. Ma per fare un camuffo del genere no, non ci vuole niente, capito? Tecnicisti ne abbiamo. L'ho fatto io da Gianni, che andavo, che disturbava. E la dita mi sento, chiamo tecnico, lo faccio, sì, ce l'ho fatto io, buongiorno. Se mi aprite su devo controllare le antenne. È vero, e abbiamo riscontrato che le antenne erano tutte marce e allora mi tratto che le ha fatte sostituire qui. Ma se ti conosci, non hai compreso, dai. Qual è il problema? Cosa sa quello che faccio? Io mi posso anche occupare di tante altre cose, a prescindere da quello che faccio, posso anche avere un laboratorio e fare questi lavori a domicilio. Qual è il problema? Il problema non viene, è solo che dici non sborsa, non ha compreso, tocca sborsa a me. Ma tali non se la fotti nulla se sborsa o non sborsa, a me mi interessa capire se quando lo vuoi fare mi avvisi un pomeriggio lo facciamo. Capito? Come abbiamo deciso per l'antenna, mi chiami, io qua scendi, fermo il blu, grande, sì, qua ci vuole l'antenna nuova, vorrei spendere 20 euro almeno per comprare l'antenna, ok, si mette una logo periodica e il problema è risolto. Qua ci vogliono antenne ad alto guadagno, se no non pigli un cavolo, no, che è una casa vasta e c'è il mio palazzo che la copre, allora vedi che... Una logo periodica e una direttiva, appunto a Monteolo il segnale passami, non è che a casa di mamma lo stesso abita al centro storico, mamma Portoles, c'è la logo periodica appuntata a Monteolo, eppure non lo vede Monteolo, la direzione è quella, il segnale entra, capite? Se poi c'è l'amplificatore, si tara l'amplificatore il più basso possibile. Insomma, che cosa? Se un cavo, cazzo ne ho una ventina di metri di cavo TV, di quello buono. Quindi, se il cavo ce l'ho, se cazzo ci voglio 20 euro a comprare un'antenna, si compra, si rabbia il culo, ma l'importante è che la situazione torni alla normalità. Dai, già ne parliamo comunque. Se no, sono tutti a girarti i bibirilli. E le gamasisci, capito? Va bene. Intanto devo andare a Fusaro perché devo prendere roba, ci serve lo cavo per i PLC e quindi lo prendo lì. Parlo con Antonello, che Antonello mi fa queste cose, capito? Mi faccio consigliare da lui. Che antenna ci vuole, cosa ci vuole, che spesa ci vuole, vale fare. E poi ti faccio in macchina Antonello e poi Antonello che mi usa bene, sì, siamo continui, non ho problemi. Ma ho fatto l'impianto qua centralizzato, quindi non ce n'è problema. E ho fatto guadagnare anche una barca di sciolti, quindi se chiedo una cortesia mi chiamo a Antonello. Almeno so che cosa deve fare, capite? Quindi non problemi. Vai Marco, avvai, avvai. Aspetta Marco, prima che volevo sentire Valeria, sei arrivata a casa, Valeria è arrivata a casa, vai. Riprendi Marco. Sì, mi ero allontanato. Insomma, alla fine chi deve pagare questa antenna? Chi la deve pagare? Natalino, ma io penso che non sia giusto. Non, per il momento non pare niente a nessuno. Dobbiamo capire com'è la situazione, capito? Perché può essere che l'antenna non c'abbia niente, qua le antenne erano vecchissime, pure prendevano sempre. Qui sono marciti i cavi e non si vedeva più un cacchio, quindi sono state cambiate tutte le linee dei cavi. È venuto Paolotto a fare determinati lavori e poi Antonello ha completato tutto il resto interno negli appartamenti con i cosi, come si chiamano, quelli sono dentro gli appartamenti, i derivatori, i deviatori, la stanza in stanza, capito? Collegato tutti i cavi, appartamento per appartamento. Quindi lì può darsi che ci voglia solo il cavo o ci voglia il demisceratore nuovo, perché magari è tutto rugginoso. Sono coglionate, capito? Non ci vuole niente Marco a vedere bene la situazione, a prendere in mano la situazione e risolverla, ok? Però se pure che ci abbia il cavo che va al demisceratore che non tocca la calza, hai capito? Tante cose ci possono essere. Sì, vabbè, cose che dovrebbe vedere sempre il padrone dell'antenna. Allora, una volta un ex amico, molto ex, nel 90 e dintorni, vedeva male la TV, sai come l'ha collegato il cavo nella scatoletta, nel miscelatore? Ha pigliato la calza centrale, le ha tutte arruffate in un pezzo unico e ce l'ha infilata nel foro del miscelatore. Capito? Proprio infilato così, tac, non è che ha stretto la vite e il vitina dentro. Dice, ma si vede male. Ho visto l'impianto. Ma chi l'ha fatto questo impianto? L'ho fatto io. Cazzo! Roba da matti. Ecco. Avanti. Ciao Marco, buonasera, ben ascoltato. Ehi, ciao. Massimiliano, sente un ton leggero. Come c'è la tornata? Veglia. Cos'è sto rumore? Oh Massimiliano. E cosa ne so? Molto. No, adesso non c'è più. Prova. Ancora c'è, guarda. Adesso c'è di nuovo, poco fa non c'era. Così? C'è sempre? Sì, ma cos'è? Rumore di ventola, cos'è? Non so come cos'è. Tutto me lo vuoi, io non lo sento. Ma sono importante. Rumore di ventola, la Madonna di Gesù Cristo. Che ventola è? Dell'alimentatore? Guarda. No, non si sente, se la porta dentro. La Madonna, c'è poco rumoroso, c'è ventola. No, non è rumore di alternata, è rumore di ventola. Si sente. Cos'è? L'alimentatore. Dove c'è l'alimentatore? Se la porta dentro. Si sente, vabbè, non è un problema. No, non mi sono portato ancora di più. Guarda, dov'è? Cos'hai sollevato? Ma poi la micro. Quella è alternata, non è ventola. Senti, metti la portante, che adesso non distingo l'alternata da una ventola. Senti, metti la portante. Non la senti girando? L'alternata fa Ma a me l'ha fatto uguale in alcuni baracchini. Cosa ne so io? Allora metti il mic gain a zero, vediamo se si sente ancora. Ecco, chiudi il mic gain, chiudi tutto il mic gain, metti la portante. Ventola. Vabbè, purtroppo avevi ragione tu, dai. No, ma purtroppo non me lo devi dire, capito? Perché sono più grande di te, c'ho più esperienza di te, non so cui soglio. L'alternata fa rimane fissa, lì si sente vum vum vum girare qualcosa e gira America Masisi. No, qua è fissa, non fa www, è fissa, tipo alternata. E può darsi pure che riceva una reduzione, ma che in, si riduca anche l'alternata, cioè ti dica. Perché tu c'hai un baracchino in plastica, io c'ho una radio, capito? Voi confondete la radio col baracchino, voi ci avete i baracchini, io c'ho la radio. Radio vecchia. Guarda a vedere se ha migliorato così. Non si sente più. Non si sente più così? No, perché hai spostato l'alimentatore. No, ho spostato il microfono, non l'alimentatore. Ecco, bravo, allora il microfono mettilo da un'altra parte, non attaccato all'alimentatore. L'emicidiale, mamma mia quanto sentiva. Adesso? Non si sente più. Posso aumentare un po' il micchi? Non aumenta. Guarda così, per la tua prova. Non si sente niente, si sentono i bambini giocare fuori. La tua figlia è accesa. Adesso va bene, lascia tutta manetta, che è la questione del microfono, troppo vicino alla ventola dell'alimentatore. Ma vabbè, riprendete, dai, che mi finisco una cosa e poi riprendo, va? Vai, il pizzello minuto. Eia, io però riprendete un po' voi, cazzo. Trovate un argomento di cui parlare, siete sempre lì, ci. Adesso ce l'abbiamo l'argomento. Ciao Vali, vieni avanti. Aspetta. Ma dov'è questo innesco? Non lo sento io innesco. Aspetta. No, adesso non ce n'è. Adesso non ce n'è, forse quando scalda, Ma io ti ho detto lasciarla accesa. Già lo so, io di solito sono tutto, non so mai che succede qualcosa, prendo un po' con la casa. Ma no, già ce l'ha sopra per la pelle. Prova, va lei, lascia la portante non parlare. Io non sento niente, ma no, questo non ce n'è. Quando parla lo fa. E poi sono uno con disperto, se tu mi sta chiamando, continua, avanti. Già sto sento, chi sei? Io ho cantato al suono, lo dico, cantato di 40 anni fa, mi chi sei? Non lo so, dai, non lo so, quindi. Non guarda, sono passati tanti anni che le versioni sono diverse. Ma chi è Nino? No, non lo so, dai, non so. Non lo so, chi sei? Adesso non posso cercare di... Ah, proprio lui? Ah, vabbè, non vuol dire. Non posso cercare di ascoltano, dipendi di caso. No, qua non arriva, se non arriva da me, è da Alghero, non lo sente nessuno. Dov'è e cosa sta usando? Ah, ecco, vedi, a parte il posto non arrivi. Senti, mi sembra che non arrivi. Ah, un portato che c'hai, vabbè, allora non arrivi il posto. Sì, sono io, sei tu. Allora, ti sono tu, dai, non fammi stare sul fine. Dai. Vabbè, dai, fai come vuoi, dai. Allora Claudio, da me che adesso non c'è, non si dice niente, stiamo andando bene. Allora, non so cosa dire. Claudio? Eia, non arriva qua, no, chi è? Non lo so, non lo vuol dire. Non lo vuol dire. Tu non dire, niente. Sono in relazione con me allora. Io sono a una distanza di 30, 40 cm. Va bene, devo passare qualcosa. Se non ti sta facendo l'effetto, non saprei leggere e scrivere, mettilo a, anziché a 5, mettilo a 4, non mi chiede. Allora, lasciamo così, mi trovo a 4, va bene, va? Se non potrebbe andare bene, va? Ecco, a 4 il Michelevra nel processore della radio, come ti ho detto, anziché farle toccare tutto lo sguardo a fondo, dalle appena appena un colpettino, ma leggero leggero, capito? No, ma tutto no, che cosa, il compressore? Il processore della radio, no? Il processore, scusa, il Mickey Game della radio, è tutto al massimo, no? Lo slider. Dalle un colpettino a rientrare appena appena. Beh, non posso dire. Allora, ecco, dai, ho abbassato appena appena. Sì, è stato appena appena così hai abbassato. Rimetti a 5 il Mickey Leve? Questo è troppo abbassato. Allora, questo è 5. Ho abbassato appena quello della radio. Ok, e rimesso a 5 il microfono. Sì, il Mickey Leve, sì. Per me è perfetto, non sento nessun rumore. Marco, come lo senti alla radio? Bene. Massimiliano, e tu? Non c'è Massimiliano? Per me va bene. Modula così. così e vediamo se lo fa, se lo fa ancora. Se lo fa ancora rimettiamo il Mic 11 a 4. Però il processore, mamma mia, ce l'ho con questo processore. Il Mickey Gay della radio lascialo stare così, non lo, lo slider, non glielo farei toccare tutto a manetta, lascialo così. Sì, perché intanto non cambia niente, Valerio, capito? È sempre forte. Ho detto, come lo senti adesso Valerio? Brava Valerio. Vabbè, quello l'ho anche così, l'ho spostato appena appena, iniziamo di un pochino, rimane, vabbè, un attimo rimane, comunque l'ho spostato. Va bene così, dai. Come, come mi ascolti, Massi? Bene, la tua voce è verticale, bella, forte, presente, bella, di lusso. E lasciamo tutto così, poi vediamo un po' se si avanti, tutto qua deve scaldare ancora, deve scaldare. Evidentemente quando, siccome come riuscite, l'ho fatto scaldare bene, c'è anche la dentro funzione, e lì allora ho iniziato a fare un po' di un pischietto, quel tipo di no. No, no, vai benissimo. Chi è che vuole entrare? Chi è che ha parlato assieme a Valerio? Chi è? Oh, io molto non vi capisco. Sta parlando uno, vi mettete a mettere la portante, a cordare, a fare. No, non capisco veramente. Vabbè. Riprendi, Natalì. Ero io, dai, che stavo... Ho cambiato i fili e stavo provando a vedere la come cavolo si chiama, che metteva la portante. Rimasta la portante in sinistra. Ah vabbè, Natali, se sei tu non ci sono problemi, siccome ogni tanto c'è qualcuno che si mette a, a fare delle prove quando la gente sta parlando, non è corretto, capito? Va bene, Natali, devi essere sereno e tranquillo per fare quel lavoro, capito? Perché lo sai che ci vuole pazienza, non te lo devo dire io, quindi piano piano il test lo conosci, ti cerchi bene i fili e te lo saldi, che già sei capace, capito? Senza rompere i gamasisi, se no siamo a Montalbano, già lo sai. Sì, ma c'è vedi che tutto E c'è vedi chi era? Non capisco stasera cosa sta succedendo, vabbè, avanti va lì. Quello grande. Claudio. E non si allontana molto dall'altro. Aspetta un attimo, dimmi fra. Scusa, poco fa ho sbagliato il microfono, stavo parlando con l'altro, con l'altra radio e ho sbagliato il microfono, che c'ero vicino, scusa. Ma, attimo, ma oggi è domenica, ma cosa mi siete incombinati? Natalino gli si è inceppato il microfono, tu sbagli il microfono, boh, ciao fra, un abbraccio, figurati, non è successo niente. Va bene, dai. No, sono entrato per dirtelo, ero io, per pensare che era una portante. Come c'ho tutti e due invece 60 vicini, è sbagliato. Vabbè, niente, scusa che sono in un'altra frequenza, ciao. Ciao, ciao, fra, figurati, non è successo niente, non ti preoccupare, può capitare. Ma lei, cosa stavi dicendo? Riprendi e fai sentire a Marco come ti sente con lo Iaiso, a vedere se cambia la modulazione. Ti sento, questa c'è un pochino più di acuti, però è bella lo stesso. Però con questa come come avanti, da dire fino a... si sente già la parola che dico, fine di sente avanti, no? No, pure parola. Questa c'è più acuti, no? Più chiara rimane, ancora più chiara. Sì, questa rimane un pochino più chiara. Qua fai da 8 a picchi di 9. Col 140 sei a 9,5, mentre con questa sei a 9, cosa cambia? Non ho capito, vediamo Marco come ti sente. Marco? Sì, toni più acuti, segnale forse leggermente inferiore. Sì, vabbè, cosa cambia? Un po' di Santiago, c'è una cosa minima, cioè, va bene, dai, dai, a me non posso utilizzare anche questo, perché questo è più sensitivo, no? Più silenzioso. Ma lì, ti volevo chiedere chiedere una cosa, ma tu per caso capo di alimentazione all'an 48 hai? No, non ne ho. Ah, va bene, va, ok. Stavo preparando quella roba là. Ma perché tu non ce l'hai? Certo che ce l'ho. No, volevo chiederti se ce la vedi e basta. Ok, riprendo l'arco, buonasera, scusa, non ti sono stato tanto. Ehi, vabbè, io chiudo, dai. Mi dedico ad altro. Ciao Valerio, Claudio, Massimiliano, Santarino, eccetera. Ci sentiamo domani, forse. Come mai? Cosa ti è successo? Il morbo ti è venuto? Oh, che stiamo facendo qua, ripulisti, buttando roba? C'è una cosa lunga e dolorosa. Mamma mia, come sto, non ti invidio. Dai, anche quello vuole fatto Marco, così te lo togli a mezzo ai piedi, poi arriva ancora più caldo e vai ancora più in crisi. Fatelo adesso, così sei a posto, dai. Va bene, ci aggiorniamo, se hai 5 minuti anche domani, già lo sai, siamo qua. Avanti Natalino, Natalino sta facendo cosa, riprendi Valè, così fai scaldare un attimino quella roba, io intanto mi sto preparando, devo portare il cane, vediamo se fa quel fruscio, ma comunque se è passato non lo fa. Vuol dire che è in mezzo a due fuochi quel microfono, non deve fischiare nel modo più assoluto perché a me non ha mai fischiato, con la stessa radio tua, con la stessa radio tua non cambia niente, che sia 440 sia 140, non cambia assolutamente niente, non deve fischiare, vuol dire che non devi usare il compressore in banda laterale del microfono e il processore della radio, lasciando il mic gain uguale, devi solo staccare il processore, il compressore non ne devi usare di quel microfono, lascialo stare spento, le tonalità sono acute quindi non deve fischiare, provalo dai. No, adesso ho fatto 90 con l'altro, no, devo scaldare, no, adesso, vabbè, fatto adesso non fischia, vabbè, se devo andare più avanti, quando è caldo. E devi parlare, tu quando parli, lui già si assesta, dai, parla con Massimiliano, io, che intanto io mi preparo, fallo andare, che voglio capire se è ancora da abbassare o meno, perché sei fortissimo. Vabbè, ci sono troppe, va, passiamo, aspetta che ho messo il foto, il lotto, perché mi fa male gli piedi, insomma. Perché già qua la cosa, come si chiama, il livello lì, no? Arriva la fondostara, invece è abbastanza amplificato, e c'è da passare che basta, un po' già dal 5 a 4 e viene un po', vabbè, vediamo un po', possiamo scaldare questa cosa. No, ma famiglia, come dici? Ti dico che sta uscendo una cannonata, secondo me, mio punto di vista, proprio bello, bello. Invece col 60 era tutto un po' imbarcato, capito? E in più vedo picchi di modulazione che col 60 non avevi. Ah sì, col 60 non avevo questi picchi, ah madonna, come mai? Come mai? Questo è un microfono che secondo me spinge di più dal 60. Ah, che spinga di più? Ma vediamo. Oh, oh. Va bene, quindi è freddino, come faccio per farlo scaldare? Ci metto, cosa ci faccio? Un braciere, un punto di fuoco ci metto. Già sta scaldando e stai salendo anche di segnale, lascialo andare che già va da solo. A fottidini, ma sono due cose, modalità di modulazione completamente diverse. Stai andando con un amplificato che ha un parametrico inserito, un compressore contro un microfono che praticamente spinge col processore della radio, perché se tu stacchi il processore della radio l'MC60 sembra un microfono normale, nonostante sia preamplificato, quella è un'altra cosa, quindi chiaramente spinge molto di più. Anche la capsula, una dinamica e una ceramica, quindi sono due cose completamente diverse. Ma quella qui è la ceramica? Sì, che piccolino. Sì, sì. Ah, beh, allora sono posso dire, sì, va bene. Sì, come il microfono proprio un'altra cosa. No, non è che così, dai. Si sente bene, io sono contento, dai. Già va bene. Ascolta, Valerio, invece, una radio ti ho fatto ascoltare, come ti sembra? Tutto ok, guarda, faccio, ti do un tocco di telefono? Come vuoi tu? No, tanto c'è il numero. E via, dai, tu intanto io riscalda, con la parelli io ti do un tocco di telefono, dai. Guarda, ti ho mandato uno stralcio della modulazione che hai, per me stai spingendo tantissimo e vai veramente molto molto bene. Secondo me lo devi tenere così, Poi quando vai in banda laterale, se ci vai spesso, ma forse ci vai anche tu poco, ma la banda laterale non mi interessa qua il 27. Mi interessa più l'FM, adesso facciamo un passaggio in FM se le regolazioni sono uguali. Per me vai bene così, era troppo alto, capito? Troppo alto. Prova a passare in FM. Una telefonata sì in AM o in AM e in FM, una telefonata. Secondo me era troppo alto il mic gain della radio, capito? Quindi adesso che hai abbassato è perfetta. Il mic level del microfono ce l'hai a 5 sempre o a 4? Però ho portato a 5, ho lasciato a 5 così il del microfono, quello del. Invece il compressore sempre a 4. 4, 5, quello della radio, il microfono l'ho abbassato appena, e il processore è inserito alla radio. Ok, perfetto. Compressore del microfono lascialo spento, se no fai sordo qualcuno. Fai benissimo, non bene, no, benissimo, visto ti ho mandato uno straccio proprio della tua modulazione. Bellissima, bellissima, sì, ma è così, l'85 secondo la timbrica di modulazione si adegua molto, molto di più, capito? Mentre 60 rimane un po' così, a prescindere io che riesco a darle quella timbrica un po' più alta rispetto alla vostra, però andate bene per due, sia tu che Massimiliano. Con gli stessi microfoni siete perfetti, anche Massimiliano glielo ho fatto abbassare, c'è le regolazioni più o meno come le tue, quindi va bene. Ah, lo stesso microfono abbiamo? Sì, sì, vai Massimiliano, voglio vedere la differenza. Sì, ora c'è l'85 lo stesso. Aspetta, c'è, allora, va bene, dai. Ma io ti sento bene. Ti sento bene, sento tutto bene, anche te, Mattia, sento tutto bene, chiaro, Santiago già è abbastanza buono, perfetto. Va bene, ciao Lu, scusa, non ti avevo, sono un po' infaccendato, va. Va bene, sì, anche io c'ho quello, e non sai, va bene. Ok. Va bene, così almeno. E tu come te l'hai regolato? Lo stesso così? Cosa, vale? Tu ce l'hai regolato la stessa cosa così oppure diversamente? Io ce l'ho regolato, il mio cliente ce l'ho a 4,5, l'altro ce l'ho regolato a 3. Ah, ecco. Poi in classe, come c'è il tono? Che è questo tono normale? Quella è la differenza tra un 60 e l'85, che c'è la regolazione dei toni, capito? Adesso tu ce l'hai in tonalità alta, se tu tiri sul pulsante vai in tonalità bassa, capito? Quindi esci impastato come uscivi col 60, mentre invece quello lì ti corregge la tonalità, capito? Ti dà gli acuti. Adesso sta abbassato però, adesso sta abbassato, non è in alto. È abbassato, se tu lo tiri su ti cambia la tonalità. Ah ecco, no, va bene, no, lasciamo tutto così. Lasciamo così perché quella è la differenza che c'è tra il 60 e l'85, che tempo irregolare, i medio alti e i medio bassi, capito? Tu adesso c'hai i medio alti, capito? Che è quello che ti serviva, perché il 60 ti dà troppe tonalità basse, invece con quello hai le tonalità regolabili da alte e basse, adesso tu ce le hai alte, che è quello che ti serviva. Ma lei provano invece quel tono? Quel tono? Allora, vediamo un po'. Guarda, come c'è santa sta uscendo adesso? C'hai solo tonalità basse. Ma adesso è bruttissimo. Allora mi sento tutto abbassato. Se sono normale, se non funziona, allora si è da tipo, come? Invece quando è basso, va bene, dai. Tonalità alte, ti disegnano le alte, se non permetto di attaccarti quello lì, capito? Se no, se tu lo tieni sollevato quel pulsante dici come 60, però non cambia niente. Invece ti serviva proprio gli acuti e ce li hai adesso, è perfetto. Va bene, ti ringrazio. Avvicinategli. Non si sbaglia, dalla modulazione io me ne accorgo quando ho bisogno di cambiare un microfono, capito? Sì, Massimiliano l'altro giorno tu gli hai detto che era impastato, allora ieri ci siamo spostati, abbiamo fatto delle prove e abbiamo trovato una via di mezzo, più o meno come il tuo, lui lo deve tenere leggermente più basso, sempre con le tonalità acute però, capito? Vabbè, rispetto a me lui c'ha la voce più grossa, no? Sì, ma ce l'avete tutte e due con tonalità medio-bassa rispetto a me, io ho gli acuti, voi vi manca quello e quindi avete bisogno di un microfono che possa darti sia la tonalità bassa della voce sia quella alta, e servono gli 85, 60 non ve ne fate niente. È un microfono troppo impegnativo quell'altro, ma troppo questo serio, più serio dell'altro, no, ho capito bene, vedo tutto quello che c'è qua sopra, non è l'85 quando è uscito questa mappa qui su lì, ma stai scherzando, non ha niente a che fare con 60. 60 è un microfono normalissimo che la Kevet ha fatto con tantissimo successo, perché è un microfono molto semplice e c'ha il circuito di preamplificazione che lo inserisci e lo disinserisci. Ma chi fa lavorare il 60 con i Kevet? Dove è il processore? Se tu togli il processore, tocca. Io adesso sono senza il processore, c'è un cambiamento allucinante. Ma cambiamento, ma guarda lì, prima era molto amplificato, adesso l'amplificazione sarà tagliata. Con tutto che il microfono è preamplificato, perché in posizione in amplificazione, capito? Quindi chi spinge nel Kenwood, loro hanno trovato una via di mezzo, perché è nato prima l'80, l'80 è un microfono un po', insomma, fatta da gado, dico io, no? E c'è questa rotellina dietro che deve entrare cacciavite per aumentare il circuito di preamplificazione, non è andato molto. Poi hanno fatto l'85 col parametrico, capito? Ma è un microfono completamente diverso, non ha niente a che fare né col 60 né con l'80, capito? Perché hanno tutti e due il circuito di preamplificazione, ma lavorano molto col processore della radio. Se il processore non spinge, il microfono è come che sia normale, un po' amplificato, ma è come che sia normale. L'85 no, perché l'85 è anche il compressore suo, quindi nel caso non dovesse andare il processore della radio, tu non fai altro che inserire il compressore ed è una cosa pazzesca, capito? Costa una barca di soldi, quindi ce li avete, usateli i microfoni senza rompere i camasigi. camasigi. Ok, va bene, sì, usiamo tutti i profili, va bene così, se tu hai deciso, no? Così perfetto, se lo sentite bene è perfetto così, invece nell'altra parte è diverso, no? Nell'altra parte già è diverso, quando, vabbè, è l'emicidionante, però la modulazione è diversa, è più chiara nell'altro, no? Anche con l'emicidionante. Una volta provo l'altro microfono, quello originale, quello che mi ha dato tu, no? Quello da tavolo, l'altro, quello da tavolo. Un microfono normale da tavolo stai usando, quello MD100. Questo perché è stata fatta quella modifica con la radio, vale? MC60, perché c'era il circuito di preamplificazione, perché con il suo microfono MD100 quella radio non spinge, perché in AM il processore non agisce. Se avessi agito il processore in AM in quella radio, avresti potuto usare anche l'MD100, capito? Allora è stata trovata una via di mezzo, quindi microfono come 60 che si sposa bene con la Yaesu, però spinge perché il microfono è preamplificato, capito? Mentre l'MD100, il circuito di preamplificazione, non ne ha. È un microfono che lavora molto bene quando tu hai il processore della radio che funziona. Siccome in AM la Yaesu il processore non funziona, funziona solo in banda laterale, e allora è stata fatta quella via di mezzo. Mi ho reso l'idea. Sì, hai ragione. Sì, quello io non ci sto pensando. Se tu hai questo preamplificato, invece quell'altro no. E poi sì, perché non c'è il compressore. E vabbè, quello del compressore, cioè, il processore c'è la sola in banda laterale. Sì. Adesso non ci stavo pensando, sono cose che ogni tanto mi fanno in mente. Ma sì. Ok, dai, va bene, perfetto. Allora, guarda, così sei perfetto, non sento nessun fischio, la regolazione per me va bene così, la radio è già calda perché sei 9.5 e questo è il tuo segnale, quindi Massimiliano, va bene? Io direi che va bene, ma io fischio non lo sento, secondo me queste regolazioni sono perfette, bellissima, bella, scurante. Ma va bene, pure non so cosa devo dire a una radio del genere, non c'è altro da dirgli. Assolutamente no, aveva troppo, il processore è troppo alto, quindi adesso trovato una via di mezzo, per me non dovrebbe fischiare più. Nel caso dovesse fartelo ancora, un altro pelino abbassa il mickey gain della radio, ok, un altro pelino, proprio il mickey gain della radio vai a abbassarti e basta, non devi toccare altro. Un altro pelino? Ah sì, stai iniziando a scaldare. Allora, vediamo un po'. Un altro pelino, adesso di questo cavo di cose, di sono così in miniatura, che fanno veramente schifo. Allora guarda, ti metto il puntino, ti metto il puntino sulla C, ok? Allora aspetta che me li metto nel punto che volevo prima, e questi qua. Una cannonata, non lo toccare, vedrai che non ti fischia. Non ha cambiato niente, la modulazione è abbassata proprio un pelino, pelino, pelino, pelino, è fortissima lo stesso. Lascialo così e vedrai che tu fischi non le senti. Forse perché era tutto amplificato, amplificato quello, processore tutto, sicuramente sarà per quello, perché era tutto al massimo, allora certo fischiava, sì, va bene così, allora lo lascio qua sulla C, adesso quando devo, quando fischio devo stare attento, a non contare niente, così almeno, perfetto, dai, e dopo proviamo. Il mickey lever lo lasci a 5 e il compressore a 4, ma tocca se. Claudio? Sì, Natali. E beh, come va adesso? Stai leggermente innescando, ma la radio è perfetta, abbassa appena appena il mickey gain. Guarda, vedi, 1, 2, 3. Un innesco c'è sotto, Natali. Forse sei troppo alto di mickey gain, abbassa leggermente. Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, guarda, 1, 2, 3. No, c'hai un innesco, correggi bene, guarda che c'è la carta che sta toccando da qualche parte. Fallo bene, la connessione è quella. Ti lascio in compagnia di Massimiliano e Valerio, io vado a portare il cane perché mi piscia la casa. Ci sentiamo subito dopo. Prova la palia. Sì, vale, comunque bella, bella mossa, bella, bella, bella veramente. Ok, dai, sono tutto pronto, sì, ho passato un po' la solito con le mitiche, ho messo il pontino sulla C. Sì, fortunatamente era perché era tutto al massimo, quello che ho fatto in inserito, questo diciamo a metà e va bene, dai, perfetto. Perfetto, va benissimo, pure a sinistra sta andando, adesso c'è la ragione funziona. Sì, non è senso, perché mi faceva, il fischio me lo faceva, lo sentivo sullo sottoparlante, ma dimmi tu, sentivo il fischio sullo sottoparlante, che era al massimo della preamplificazione. Vabbè, giustamente se avevi il compressore e il processore inserito, tutti e due, giustamente era troppo forte la radio e quindi ti magari faceva appena appena quel rientro, ho capito? Eia, no, soddisfatto, sono contento, va bene così, dai. Ah, ti chiamo un attimino, Massimo. Sì, va, qua sono io, va, non c'è problema. Arrivo subito e Massimiliano vado a portare a Filippo. Guarda Natalino a vedere se riesce a mettere a posto il microfono, perché a uscire sta uscendo, ok? Valerio, va bene così, io ci arrivo subito, beh. Oh, va, qua, io vedo, sta facendo la bassa Valerio. E poi scendo un attimino giù, va, c'è mia figlia che sta giocando un po' giù e mi stacco. Comunque Natalino di radio sta andando. Non sento la modulazione però. Massimiliano, guarda dove si va. Sono uscendo, però non lo so, aspetta adesso. Non ho capito, Massimiliano. Aspetta che al telefono, c'hai sempre il fischio Natalino, io fammi a portare il cane. Accenditi l'altra radio, senza antenna, senza niente, e falla così la prova. Non è un radio. Devi eliminare quel fischio Natalì, c'è un rientro, c'è qualcosa che sta toccando da qualche parte. Già torno subito, dai, sto portando già. Hola. C'è qualcuno qua? Sì Natalì, sono arrivato io, c'è sempre il fischio. Il cazzo, ma non so che lingua va. La modulazione è perfetta, è 5, amplificata, però ti porti appresso un fischio. Puoi regolare il Mickey Gay, qualcosa? Il volume posso, posso regolare e basta, il Mickey Gay non è. Quanto ce l'hai il microfono? A metà. Abbasso la panampera. A 3 vai. Mettilo a meno di 3. Guarda, 1, 2, 3. Ok, c'è io dei due voci. Mettilo ancora un pelino meno. A 2, guarda un po'. Perfetto, ti registro? Perfetto, senza fischi e senza niente amplificata, perfetta. Vuol dire che lo devo tenere a 2, boh. Perfetta, 2 perfetta, ma amplificata però, ma si è sentita anche Concetta. Hai visto che sei riuscito? Oh, visto dai. E lo dubbio via sei tu, come te ti conosco. Perfetta, 5 perfetta. A 2 lo devi avere col microfono. Vuol dire che è adeguato per quella radio. Sta spingendo bene. Ehi, cosa vuoi che ti dica? Mi ha fatto morire per i contatti. L'ha fatto. Mi ha fatto proprio morire per i contatti. Diglielo che stavo in attacco, che a uno gli hanno dato il semente, che ha fatto un'analisi di mezzo, e per me si fa vera, perché c'è il peso là, già ti ha sentito. Già ti ho sentito con c'è, ma è una cosa assurda, capito? Quelle cose le danno solo ai galeotti, vuol dire che quello c'aveva precedenti penali. Ma non vi credi essa? Natalia non ha precedenti penali che è pulito, quindi si pone la faccia e in come le vostra mano, per capirci, no? Capito? Quindi, questa è una bella radio, Natalia, perfetta, meglio di quella del presidente. A due così è perfetta. Bisogna che gli faccia lo spinotto nuovo perché adesso spinotti non ne ho, è così a visto, va, però l'ho lasciato così adesso per il momento. Quando abbiamo i negozi, li ritiro, andami con fare tre spinotto nuovo, così almeno è originale, a quattro punte. Poi se devo metterlo su un altro apparecchio lo metterò con un altro metodo. Perfetto, poi si chiede a tu, si intende il concetto che lo vedete in bianco, si sente anche la ventola dell'alimentatore, leggera leggera, quindi immaginati, perfetto, perfetto, meglio di chi tu che fa visti. Ok, è segnale 9.20, abbondante, quindi va bene così. Sì, almeno non devo tenere, non fare nomi, tutti simili. Vabbè, fregati, ecco, ci frega. Vabbè, ci vediamo, mi racconti tutto adesso qua, non dire niente. Qua sta vincendo una tariffa sulla modulata concetta. E esce bene il microfono, te l'ha giurito, attaccalo. Hai detto ti devi comprare lo spinotto perché adesso com'è tutto volante l'hai fatto. Allora uno spinotto così vecchio che avevo, se trovo tutti glielo metto, se no glielo compro nuovo e via. Tanto ormai sono i contatti come sono. Perfetto. Lo puoi lasciare così a due, non più di due, proprio poi appena appena due e mezzo, ma scarso, capito? Però la modulazione è perfetta, 5 è perfetta. Allora così a due, da. A due si intende tutto, si intende pure la ventola, cosa vuoi di più? È quella del computer, non è dell'alimentatore, l'alimentatore è un ben alto, è una assistenza quella ventola di forza del computer, che ce ne sono due. Se fa vedere di piano piano qui, se altre volte è ancora più forte. Sto parlando piano, sì, ecco qua, a posto. Perfetto, visto? Fra me non devo stare a sollevare il volume e abbassarlo, così sei perfetto. Io glielo appoggio. Va bene Marco, no? Antonio, va bene? Eia. Ha fatto le connessioni, nel MP4 con l'omologato e sei a posto. Ormai, ma che c'ha, giusto, sì, è vero. Sì, sì, va bene. No, col microfono male non si poteva sentire, certo. Boh, basso, basso. Adesso va bene, la radio è perfetta. Adesso va bene, sì. L'unica cosa che penso è il problema di quello, no, non lo so io chi sia. Comunque sia, ma se ci parli, ci parlano di persone e ci mettono d'accordo. È inutile parlarci, bisogna che sbussi soldi io di tutto, non hai compreso? A chi si non mangia ne vanno cagantone. Bisogna che gli faccio l'antenna nuova e basta. Chi dirà voce a io, ma sei tranquillo. Sì, accidenti, non me lo faccia. L'antenna di ospiti, cioè non di ospiti, quella che vendono da piccole, fa tutto. La metti in verticale, la punti a cosa, molti euro si è a posto. E non disturba nessuno. Anzi, è molto meglio addirittura, quindi non è problema. Tu vai da bricome, pigliate quella con l'antenna, quella che ho messo io. A un certo senso dico dove abitavo io, stai tranquillo, non disturba nessuno, perché ce l'avevo attaccata sotto la mantova turbo. E non facciamo manco TV, figurati tu. Ma cosa vuoi? Cioè, ma tutte e due le antenne devo comprare? No, una solo basta, non tutte e due. Diventi antenna spina di pesce, si chiama quella lì. Quella, la logaritmica, quella che vende il bricome. Piazzi quella in verticale, la punta a motore, sei a posto. E non è nessun problema. Anzi, se vuoi proprio andare, i primi tre elementi li metti in orizzontale, già ti lasci in verticale. E sei a posto. Hai capito? E non disturbi nessuno. Che periodica, quella che ti ho detto io, Natali, costa al bricco, ma vale 12 euro nei 10 antenne, e fa sia V che U. E vede tutti i canali, così è. Eia, è una direttiva, è fatta apposta, tutto prende, tutto, tutto, fa sia primo, secondo, terzo, le V e le U, dei canali della televisione, fa, e basta. E costa 9 euro, o 12 euro, quello che sono, comunque sia, metti 5 euro, sta quello che lui non ti rompe più le palle, perché lui è pensato, lo abitavo io, grazie a Dio, non mi ha mai rotto le palle a me. E tutto è lì con l'antenna, che funziona bene, è l'unica antenna che va bene. Eia, gli ho detto la tarina, il capo ce l'ho io se c'è da cambiare il capo, hai capito? Un dolore di euro di nesce non ti rompi più le palle e metti la radio che ci avevi prima, capito? Quando lo devi fare me lo dici, vengo e te lo do una mano anche io. E adesso là, quando ritiro la pensione. Se ne vuole un virus e i miei rifiuti, mi si dispiace, ma io sono in regola. Perfetto, perfetto, tu rimani adesso così come sei. La radio va bene, stai usando l'omologato, rimaniti così come sei che arrivi 9 più 20, ok? Sei 5 dB meno dell'altro, quindi, perché lo tenevi a 10 watt, perciò da 9,20 a 9,25 non cambia niente, poi quando aumentavi arrivavi a 9,30 chiaramente. Andare tranquillamente così, se lui è d'accordo noi una mano gliela diamo, te la do anche io, se lui rompe le balle se la tiene, ok? Punto. Infatti punto, gliela compro. E poi glielo chiedo, sì, la compagna si sta logo per di unica di mia sacqui, tant'è che tante le vei va. Ce l'ho io qua, mi lo sai con l'antenna Ocla, ce l'hai vista sotto la direttiva, c'ho quella lì, la roba per me, e funziona veramente bene come antenna, col cavo è tutto dentro. È perfetto, non disturba mai con le cose, niente, io usavo il balacchino, anzi addirittura sotto, l'avevi vista, c'è la direttiva per la V, direttiva, però neanche la striscia di fatto le visioni, figurati tu. Io ho detto a Natalino, la zona è Badesi, di Trinità, c'hanno tutti quelle antenne a posizione verticale su Monteoro, ok? E infatti a uno glielo ho chiesto, ma perché usate? Perché sono direttive che fanno V e U, portano in bocco, sono tutti in acciaio e andano benissimo. Hanno tutti quelle antenne a Badesi e Trinità d'Agosto. E quello te lo metto a lì. Risolvi il problema, quella è una direttiva sia per U che per I. Unico segnale prende, capito? Risolvi il problema. Due cinti, però prima parlare con lui e poi fammi sapere. Quello lo vuoi fare, scelgo. Io il cavo ne ho nuovo di quello, capito? Ci mette il cavo nuovo, l'antenna nuova e si avviglia i Guidolucco. E due lo macchini va in capo. E ti dovrà attaccare la radio. Capito? E attacchi nuovo tutti e due. Quando stiamo parlando così in locale, usi quella lì. Quando magari c'è Valerio o qualcuno che non ti sente, come ti attacchi l'altra? Però te l'attacchi. Ma poi da stanno di noi, no? Che sai che venga a Nicacuno. Non viene nessuno, ti ho detto. Stai sereno, che non viene nessuno. Vedete a me. Stai così lì, stai sereno tu. Se non ti avevi detto vengono, non ci vengono, vedete. È tutto sotto controllo, non ti preoccupi. Ok, dai. Ya, andate con questo microfono alla struttura, non come devo dire di mano. No, ma almeno anche se parli piano ti sentiamo, è bene pure, benissimo. Guarda, l'ha confermato al piantonello. Perfetto. E spingi un bel pure, perché ce l'hai a due. Se lo sollevi fischia di quanto spinge, quindi tienilo a due e va benissimo. Perché non c'è una macchina subito. Scatola di fiammiferi questo apparecchio. A due e spingendo cosa male. Sì, te l'ho detto, hai visto, ti sei messo un po' di pazienza, stasera magari sei più rilassato e te l'hai fatto, ma se ti vuoi fare in dose, quando sei nervoso è chiaro che non ve la vai, ci vuole calma, calma e tranquillità a fare qualcosa lì, va bene, va bene. Valerio sta preparando a mangiare, così è, Valerio, a Bisese. Bisese sono qua, non mi stavo preparando, lo stavo cambiando perché ancora non mi ero... la funzione adesso non mi sono cambiato da qui, guarda adesso. Sì, ok, cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo cambiare? Che cosa? No, Natalia va a cambiare l'antenna TV. Metterò di quelle lobby periodiche VU, capito? Che vanno benissimo. Perfetto sei, non tocca se tu che sei perfetto. Perfetto, ma perfetto veramente. 10, 10, 10. Adesso faccio come Giuseppe, mi ricordo a toccare il punto. No, l'ho regolato benissimo. Lascio così perché c'è una bella radio. Acuti, tonalità medio-alte. I bassi sono perfetti, va molto bene col microfono, caspita, tu non lo vuoi usare, ma meglio del 60, passata ti fa la voce troppo grossa, mi senza acuti, non è bella così, questa invece è bella forte, lineare e soprattutto è chiara, ma bella veramente. Va bene, dai. Chiamatevi così, guarda, anche caldo se sta funzionando tutto alla perfezione. Tutti non ce ne sono. Era tutto quello allora, quello degli ultimi della radio, che era al massimo, e perché va sotto rientro, no? Come il tizio sulla rientro, dalla sua parlante, figurati, tutti nel tizio. No, sei qua, ma te l'ho detto per esperienza vissuta, no? Perché devo sapere le cose più di voi, assolutamente, io queste cose ve le dico perché le ho già vissute, soprattutto quando c'hai un parametrico così che spinge tantissimo, e conviene sempre tenere un pochino rispetto al 60, un pochino il mitigate più basso, perché spingendo ti fa rientro sulla colonnina, capito? Perciò adesso è perfetto, sullo sotto la C è perfetto, la amplificazione c'è, le tonalità ci sono, sì, come si dice in realtà, non te lo posso dire. Va bene, allora io faccio quello che adesso, tutto, io lo voglio ringraziare, anche all'altro 25, adesso vado a vedere un po' da mangiare, tu mi faccio un po' fare una pizza, così mi sono stampato. E va bene così, ci sentiamo. Buona serata a tutti, ci sentiamo domani. No, domani non ho, no, domani, no, domani sono. Cosa monterà, guarda, non monterà. Dunque ce ne sto per domattina presto, dunque domani in serata, in comunico, vediamo per tutti da lì, ok? Ok, allora riprendi cambio. K, perfetto, usa sempre l'occhio che quello lì funziona, è anche molto più morbido del 60. E va bene così, dai. Ok, vale, grazie di tutto e niente, poi ci aggiorniamo telefonicamente. Se scendi a Sassari lo sai che la porta per te è sempre aperta, non ci sono problemi, fatti sentire, buon fine serata e buon tutto, e soprattutto domani mattina buon primo maggio, perché io lavoro, non rientro tardi, ma domani mattina sono a lavoro. Ok, ciao, alle prossime, avanti Natali. Ale, mi senti? Ti sento tantissimo Natali. Sì, vabbè, perché sono gatto. Basta! L'importante è che mi senti di radio, va? Proprio Pio Pio, prima ti sentivo bene, adesso proprio Pio Pio. Se tu correndo non ne ho neanche, figurati. È proprio la tua, diciamo, sentiamo il 3, fate anche meno di 3, se meno di 3, però la radio è proprio 1-1, eh. Vabbè, va, non posso fare di più per il momento. Salutini, allora alle prossime. Vabbè, perché c'ha 4 watt, vale, se no. Però vedi, già di radio lo senti perché ha messo il microfono preamplificato. Però vedrai che la prossima settimana torna alla normalità, dai. Bisogna risolvere, qualcosa, in qualche modo, e bisogna fare. Vabbè, dai. Vediamo, dai, che si tira nuovamente, perché altrimenti tutto questo lavoro che è stato fatto è inutile. È inutile, perché non si sente. Ok. Vabbè, fatto così. Me ne vado a mangiare. Lasciatemi andare, me ne vado a mangiare. Ciao, frate, ciao. Ciao, Vale, ciao, buona cena con tutto, alle prossime, dai. Vai, Natali. Ciao, Vale, alle prossime, dai. Ehi, ehi, Antonello si è allontanato, Antonello si è sceso a controllare il fratello, va bene Natali, come un passo l'hai già fatto, adesso ci fanno gli altri e così si torna alla normalità, ok? Ok. Va bene, dai, mo ti saluto, sono le 8:30, vado a mangiare anche io, va bene? Se ci siete ci sentiamo dopo magari a fare due chiacchiere, se no prendete la ricorsione, ok? Ciao a te, ciao a Concetta, ciao a tutti qui che sono ascolti. Ciao, qua, ciao. Marco, ma è entrato? Vabbè, io rimango all'ascolto. Rimane l'ascolto e la così che sei perfetto. Ciao. Va bene, va bene. Oi, capo e moglie, ma non sei Rossello? No, sono Rossello. Allora, di pranzo, Rossito. Cosa? Sono Rossito, allora di pranzo. Io l'ho vista la foto. Ma con i pini l'hai mangiato. Allora, che chi ce lo lascia? Va bene, va bene. Ti saluta Gabri, non Gabri, saluto. Vabbè, capo di Mugnè, sempre anche di Brescia. E beh, come è? Come te la passi? Benissimo, benissimo. E domani dove sei? Al lavoro. Lo faccio, come vuoi che sia. Ma povero, come me faccio a lavorare anche i giorni di festa. Ah, la Mugnè sta facendo ordinari. Fatto per cambiare. Allora, ordinari. Ma sento io, bisogna andare. Allora, okay. Va bene, capito. Le cose bisogna farli, sennò rimangono troppo indietro, poi domani è primo del mese, me devo preparare tutti i registri, le relazioni. Per iniziare bene martedì, vado domani, dai. Siamo a mezzogiorno, ma sistemo queste cose così martedì inizio la settimana a posto. Ma hai tutto il giorno di lavoro? No, io di solito faccio dalle 7 alle 1 e mezza, tutti i giorni. Però domani anziché uscire alle 1 e mezza esco a mezzogiorno, capito? Ah no, già va bene, allora lavori un po' di meno, lavori. Meno forzato. Io avevo già festa così, tanto vado io con altri due colleghi a metterci a posto un po' la contabilità di fine mese, perché poi entro il 5 dobbiamo consegnare tutta la documentazione del mese precedente, e quindi vado domani, me le faccio queste cose e poi me ne rientro, niente di particolare. Va bene, io tengo in chiusura e vado a cenare anch'io, piatto di battato e via, e su che andiamo. Va bene, buona cena allora, buon proseguimento di serata. Ciao, ciao. Ciao Gabri, ottima modulazione Massimiliano Gabrino, Un'ottima modulazione? Com'è la voce? Bella, un po' più, rimane un po' più squillante di quella di Massimiliano, forse tu c'hai più acuti. Bella, bella. Tutte e due, va bene. Perché Massimiliano non è a lui. Massimiliano c'ha il SBV col ciacco. Allora, SBV, cosa hai detto? Te lo vendi? No. Dalli di pini che sono avanzati. Ma là c'è Recchivi. Casinaretto, vai Recchivi. Ci intende poco la Burotto, vai. Divertitevi, buon fine serata, ci sentiamo. Ciao. Ciao. Che là, che là. Che? Il boia. Ah. Ho sentito questo bip dall'altra stanza, c'è quel film bello in due parti, mi. E allora Antonè? Dimmi caro, dimmi, sono qua. Come mai ti piace quella radio lì Antonè? Perché completa e fa tutto? Perché è piccola? Boh. Perché me l'hai detto tu, la verità si dica. No, ma dico, come la vorresti sfruttare tu? Perché finché eravamo in due, no, che ce l'avevamo. Una radio HF, dovevamo fare 45 metri, 43 MHz. Ma se ce l'ha uno solo, come si fa? Ok, non si preoccupare, ho già chiesto a Stefano, per che motivo, quindi me dobbiamo avvisare lui, però ne busca una, tipo la tua, uguale, 500 euro, lui dice subito me la prendo, in contanti. Solo che se tu mi chiedi quanto lo sto usando io, quanto la sto usando quella radio, io ti posso dire praticamente zero. Non lo sto usando perché tutto quello che mi prefiggevo di usarmela diciamo in altre bande, i 53 mega, il C43, e alla fine non la sto più usando. Il QRM come secondo te là dove sei tu? Non l'ho mai provato, già lo sai, non posso dirti niente. Diciamo che lo portiamo qua, proviamo e poi si vedrà, questo è quello. Non posso farti previsioni, non sono... capito? Quindi, a un certo punto, vabbè... Se va bene, non lo so, io ho fatto i calcoli, a un certo punto, se riprendo due cose diverse, mi costa il doppio, cioè stare con queste cose qua, 301 e l'altro in più, non vale neanche la pena avere queste cose qua lì. Quindi a un certo punto ho fatto quattro calcoli e mi interessa più fare come la prossima, capito? Tutto lì. Forse mi sto sbagliando, ma per me è tanto, cioè spendere il doppio per un apparecchio vecchio di 20 anni e poi avere uno dual band eccetera eccetera, spendo il doppio la verità. I calcoli mi sono fatti. Vabbè, quello fa tutta l'HF, cioè fa tutto da 0,1, no, da 1,5 a, mi pare, ai 56 MHz, quindi tutto fa, anche 43 MHz, tutto, fino ai 56, e poi lo fa in tutti i modi, AM, FM, USB, LSB, CW, PSK, vabbè, quelle sono cose che non usi. Lo stesso in V e in VHF, in UHF è full band, bande laterali comprese, tutto fa, volendo. E appunto per quello, poi vabbè, mi serve anche uno uguale a quello che ho io, portatele quindi via le due di cose a un certo punto, non lo so. Perché l'altro ho dato a Giuseppe, quindi ho lasciato a lui e uno me lo prendo nuovo, tanto più che altro mi serve per fare un ponte, capito? Eia. Beh, quello esce anche in AM, certo esce come una radio normale, non esce amplificato come un Kenwood, esce come una radio normale, però esce rispetto all'originale, col microfono originale la radio è orribile, però facendo la modifica di quel radioamatore almeno esce bene in AM, capito? Anche 27, quindi utilizzabile. E a se secondo capo a 2 minuti. Eia. Tutto a posto. Aspetta Simona, dimmi. Eia. So quanto ne. Poi cosa dire? Adesso non mi ricordo quanti watt sono in AM. In AM sono 20 o 30 watt. Forse 20, in FM è un centinaio, mi pare, e in SSB lo stesso, questo è in HF, in V, in U, per esempio in UHF sono 20 watt, in FM, 20 watt, in VHF sono di più, ma quello poi, cioè, 20 watt in UHF ce n'è d'avanzo. Diciamo che con quello fai in tutte le bande tutti i modi di emissione, capito? Tutti i modi di emissione in tutte le bande. Vabbè, è una bella bestia, non per niente ho preso quello, l'ho scelto apposta, fa tutto, tutto quanto, basta avere l'antenna adatta. Sì, già lo so, se mi sembra sì, devo tenere qualcuno avanti, chi è che vuole entrare? I palito, Ah, hai sentito qualcuno? Sotto, ma non ho capito neanche cosa che diavolo mi ha detto, la verità. A me piace invece molto l'FT450. So che è monobanda, è solo HF e 50 MHz che non li considero nemmeno. perché la banda solo amatoriale, vabbè, c'è anche il fuoribanda, però molto carino come HF, piccolo, non ha pretese, capito, un DSP ottimo. Lo so che ti costa molto, la verità, ma faccio piacere io. Sì, costa 600 euro, più tutto il resto, cioè l'espansione banda, la spedizione assicurata. Solo che è monobanda, Antonello, cioè io se lo vendo lascio perdere l'HF, lascio perdere tutte le altre bande. L'HF la lascio perdermi. Cioè è inutile vendere un quadribanda per piacere un monobanda HF. Lo vendo e boh, se lo vendo. E in più mi rimane, per il PMR mi rimane sempre l'8008, capito? Quello rimane. A voglia, quello è un bijou in PMR. A me interessa il quadribanda, no? Monobanda. Solo quello mi interessa, quadribanda. Meglio, già ho capito. Poi adesso non lo faranno più, fra poco esce di produzione, Antonio. Hanno fatto il nuovo, di forma e dimensioni simile, però è solo HF 50 MHz. Cioè l'hanno rifatto nuovo, nuova versione, l'hanno dimezzato, l'hanno azzoppato. Adesso non mi ricordo la sigla. Ha il display celestino e fa HF 50 MHz, che sono poi una... per radioattori sono... c'è poco traffico, cioè ogni volta, ogni morte di papa prendi in 6 metri e poi ci vogliono antenne direttive, cioè anziché farlo quadribanda hanno fatto solo due bande, o per meglio dire una, 50 MHz non li considero nemmeno. Invece dell'897, segui bene, l'897 che era più grande, hanno fatto il 991 che è veramente bello. L'FT 991 ha un display a colori, è stato tutto rinnovato, insomma, però costa anche 1300 euro, 1300 euro costa, o se no 1400 anche. L'altro giorno del 570 c'era un FT 8 mi ricordo cosa diavolo era, in pratica quattro bande faceva, bello, display arancione, scritta Lucca, e quindi non lo so, 570 ne voleva, subito su eBay. Sarà... ma l'857 può essere? Forse 85, no, forse l'857 no, ma qualcosa del genere sì. Ma era grande o piccolo? Perché se è piccolo è l'817, se invece è grande, proprio alto, è l'897. La macchina era l'auto, più che altro. Nero con lo frequenzimetro arancione. Eh beh, se arancione, guarda, l'817 non mi ricordo se possa muovere i colori del display, il mio può fare arancione, giallo, fucsia, verde, celeste, tutti i colori puoi fare, tutti l'accoppiamento dei colori, quello sì, però vabbè, io non le considero queste finiture qua, a me interessa il ciucco dell'apparato, capito? Non mi interessano le finiture, i colori, i suoni, basta vada bene l'apparato e V. E poi deve essere assolutamente quello che cerchiamo HF, cioè faceva V e HF in pratica, quante bande? Beh, allora la verità è SP. Cioè l'897 è da macchina, è anche da macchina, ma è grandetto, è più alto, forse anche più largo, non mi ricordo. Invece l'817 è microscopico, lo puoi usare anche in portatile, però c'è un watt e mezzo in AM, lo sai, o 2 watt, o 1,5 o 2 watt. È un QRP, esclusivamente QRP, cioè c'hai 5 watt in tutte le bande, 5 watt in SSB. Invece vabbè, l'857 ha 100 watt in SSB. No, mi interessa solamente che ci abbia 100 watt in AM, dopodiché il resto è basta. Hai capito? VHF, poi di cui uno non me ne frega proprio niente, del resto. Comunque sia, c'è qualcuno di quei apparecchi lì? No, assolutamente, Antonè. In AM l'857 dà 20 watt o 20 o 30, adesso non me lo ricordo, va 20 watt, 100 neanche lontanamente li dà. 100 li dà, penso, in FM. In FM e in SSB li dà. In AM no. No, 100 watt in AM deve andare su un Kenwood. Ma poi siamo punti a capo. Ma se il Kenwood va male da 100 watt, io sai che tu come è nato, quindi si può modificare. Sì, il mio era originale, 40 watt in AM. Vabbè, anche 50, ma poi cominciava... Invece tutti gli altri li hanno modificati. Quello che avevo io era originale, almeno non era... Anche perché poi se più li tiri il collo, più... Boh. Io sono... Per non tirare il collo agli apparati. Non tirarlo troppo. Cioè, se nasce 5 watt, per dire, il baracchino nasce da 5. Eccetera. Bene, bene. Ok, ok, c'è problema per quello. Poi di tu, Antone, se vuoi te lo faccio vedere, te lo faccio provare. Tu per le altre bande, vabbè, per il PMR c'è l'antenna. Ma per altri posti no. Per ora. Tipo 45 di torto. Sto dicendo. Ho parlato con Stefano stasera. Quindi mi ha detto, dice, guarda che quella parecchia là vale tot, come te l'ho scritto io stasera. Se lo vuoi, ci sta un cerco uguale, mi ha detto. Ho detto, guarda, chiedo a una persona, ci sono certo, ma è... Quindi, al limite siamo in due. Se tu lo tieni, non c'è problema. Appena ce l'ho, siamo in due. E ci andiamo a fare i maniaci, tutti e due. Bello bene, ha capito. Ehi, Antone, peggio compreso. Troppo compreso. Dai che mi guardo il film, dai. D'accordo, grazie, faccio guardare il film, non c'è problema. Ma ti ho scritto qualcosa, no? Appena trovi uno immediatamente, dimmelo. Facciamo come ho detto, come l'altra volta, quando ho pigliato detto il film, posso stare uguale. Tutto va bene, quindi se trovano uno uguale, Marco, ci abbiamo un preciso identico tutti e due, poi sappiamo dove andare. Cioè, dici come funziona, quindi non cambia niente. Ehi, l'FT450, mamma mia, trovarlo usato mi sarebbe bello. Un usato garantito. Così anziché pagarlo 600 lo posso pagare o meno. 450, non lo so, dipende dall'età. Dipende dall'età. Che ci appicca, ma se non per quello non ti preoccupare, appena lo trova immediatamente mi chiama, faccio le cose e ce l'ho a casa come la stavolta. Cioè, se sei oltre a prendere una cosa poi l'altra, no, non me la frega più lunga. La produzione è quella, 500 euro, quindi appena ce l'ha in mano mi chiama subito e faccio la transazione direttamente alle poste, a quello là, e me lo lascio a casa in tempo di 2-3 giorni, non di più. Ma tramite PostePay? Cioè lo vuoi comprare a scatola chiusa da fuori? Esatto, sì. Garantito però, da elevatori, non da altre gente, da elevatori più che altro. Ehia, vabbè che il radiamatore te lo può garantire come te lo posso garantire io, mi... Io in realtà, siccome non lo sto più usando, ho usato l'altro giorno per ascoltare, avevo già preventivato di venderlo l'857. Tanto non è roba che uso, a meno che non voglio andare in mano pirata, ma no, con chi ci vado? Capito? Già quando l'avevo comprato, dopo un mese, mi ero già pentito, mi ero reso conto che avevo fatto il passo più grande, più lungo della gamba, capito? L'avevo già preventivato di venderlo, non lo so, vediamo. Ascolta, ricevi tu, c'è scritto quanto ti voglio dare, quindi non c'è problema. Se accetti, se no, siamo colleghi tutti e due, sempre voi due, poi uno io, uno tu, e non succede niente, non cambia niente, capito? Io, se lo vuoi dare, non c'è problema, io subito sono di contatto anche domani, per quella. Come ti ho scritto poco fa su cosa, quindi, a un certo punto sono tranquillo, sono su di me, quindi, li ho ritirati, anzi, gli altri sono arrivati quelli, poi arrivano anche gli altri, era ora. Oh, i soldi sì, ma perché qualche rimborso speciale ti è arrivato? Beh, c'è un culo, e se no sarei stato con i soldi in mano. Io mi ho fatto un culo, anzi, sai qualche cosa che non potevo di andarmene in pizzeria insieme a te, a mangiarmi la pizza, come si deve, la verità. Perché io le palle piene di chiamere qua a casa. Allora mangiamo la pizza insieme a te, al limite se vuoi venire qualcun altro, ci facciamo una bella serata, due o tre ore, quello che sono, rilassati, sai cosa vuol dire fare 12 ore di giù, non te ricco nulla, guarda. Un casino, ma tu domani sei di turno, cosa devi fare domani? Domani sono a casa, non c'è problema, sono qua a casa. Chiama quando se vuoi uscire, avete una birra, però ok, non ho problemi, sono di fronte. Già, c'è Giovanna, domani tanto Giovanna è di lunedì ed è libera. Ma se vuoi te ne parliamo, te lo vedi, insomma, valuta tu. Ok, vabbè, passa a casa domani, passa a casa, prendiamo al bar, prendiamo la pizza, e poi lo fai vedere e poi decidiamo, ok? D'accordo? Ma dubito che troveremo un bar aperto domani, domani è la festa del lavoro, Antonè. Non so mica, no. C'è Nico aperto domani, non ti preoccupare. Sempre al circolo però, cazzo. Lo sai che io ai circoli sono allergico. Va a far culo. Grazie a Dio un circolo come si deve, Nico, già lo sai che tu. Non è un circolo di dragone. Quelli ci ha buttato in furia, lo sai. Un circolo tranquillo. Sì, vabbè, sì, quello già è tranquillo, ma sai, il circolo è sempre luogo di perdizione, quelli considero sempre luoghi di perdizione, di Beozia, di Embraghera, di gente che va lì, Vabbè, dai, va bene, se domani se riesco a svincolarmi ci faccio una chiacchierata, guarda. Anch'io devo staccare da qua perché sono sotto pressione con questa storia che bisogna rifare tutto qua. Sai, se mia zia, cioè, a noi non ce ne frega un cacchio di avere la cucina col pavimento ricoperto di quella, sai, ricoperto di quella plastica a metraggio, che simula un pavimento di mattonelle. Poi il colore è chiaro, cazzo, c'è ogni minimo puntino lo vedi. Cioè poi bisogna attaccarlo a collante, o se dico. Poi rovini. Cioè vuole. Aspetta un attimo. Scusa, a un certo punto non c'è il. Come si chiama? Veloce. Prendi il. Fai proprio un'ora e mezzo ci vuole fare una camera, meno che ci vogliamo tutto lì. Il parchetto, anche se è finto, ma è parchetto. Ti piace quello, non ci vuole né colore né niente. Quando vuoi piglio lo stacchi. Oh, lei mi ha parlato di silicone, cioè deve stare aderente a terra, non deve fare bolle o stare. So che a mamma mi ha detto chiaramente, non gliene frega niente avere la cucina col pavimento ricoperto, bisogna levarle tutto, non gliene frega nulla. Tanto più che noi abbiamo quelle mattonelle di una volta che sono un po' più tutte a chiacette, no, a sazzi, fatte apposta, no? Cioè erano caratteristici dell'epoca. Se ne frega di mettere un pavimento chiaro che ogni minima cosa che c'è la vedi. Insomma, non gliene frega niente, mia zia si impone e vuole fare, vuole ricoprire la cucina. Non è in casa sua, se vuole ricoprirsi la cucina, si ricopre la sua, infatti l'ha fatto. Cioè, questa è casa degli anni 50, mi. O cambi tutti i pavimenti, ricopri tutto il pavimento di tutta la casa, ma non è fattibile, non è fattibile. Cioè già dobbiamo liberare gli stanzini, buttare un bel di roba, mettere a posto lo stesso la camera del computer, che c'è un bel di roba da buttare anche lì. È inutile che lei allunghi i lavori all'infinito, perché anziché un mese, ci stiamo 2 mesi poi appresso a questa casa. Si vuole inventare roba, si vuole inventare roba. Anche roba che è inutile, che non serve. Prima di tutto bisogna svuotare le stanzine, buttare roba e fare spazio per sistemare, che ne so, vestiti che ho in più, perché mamma sta sempre comprando, e pantaloni, e camicie. Cioè, comprano 10.000 pantaloni, 10.000 camicie, 10.000 magliette, 10.000 golfi, e dove cazzo me li metto, scusando il termine? E infatti dobbiamo svuotare i stanzini proprio e gli armadi per mettere roba da vestire che ho tutta in camera, e negli armadi che stanno scoppiando. Bisogna avere poca roba. Qualche pantalone, qualche camicia, qualche maglietta da usare e lavare a rotazione, se no averne centinaia, cosa me ne faccio? Vabbè, questi erano gli acquisti pazzi fatti da mamma, capito? Comprare, e la casa sta scoppiando, se capì? E guarda che il parcheggio è una cazzata, la verità, si installa subito e costa anche poco. Sotto il parco ci va infatti con un foglio di tipo plastica, morbida, quindi figurati tu. E perché ci metti il parco in sopra, lo so io. Ehi, ma ce l'abbiamo già il pavimento, cosa me ne affutti a me di mettere questa plastica? Lo vuole fare lì. Cioè lei vuole fare la padrona in casa, ha detto mamma, non me ne affutti nulla di avere lì il pavimento ricoperto, mi piace così come ha detto. Già bisogna rimediare la cucina rovinata, c'è già la cappa che comprate da rete bruciata, il mobiletto che c'è sopra va cambiato, la credenzina micro, no, dove c'è qualche pentola. Cioè abbiamo altre priorità qua in questa casa, non pensare a mettere la plastica o il finto pavimento sulla cucina. E che me ne immagino, figurati tu. Oh Iuia. Cioè qua è casa vissuta, è casa vecchia, anche le finestre sono vecchie, cioè qua ci vogliono migliaia di euro, migliaia a rifare tutto, o decine di migliaia di euro a rifare tutto. Non ne vale la pena, questa basta, questa ci abbiamo, questa ci teniamo di casa. È utile che la camufli da casa nuova quando è degli anni 50 questo edificio, è costruito nei criteri degli anni 50 e con la robaccia degli anni 50, c'è poco da fare. Non siamo ricchi da rifarci tutto, da farci la casa a specchio, non se ne ha fatti nulla. E appunto per quello, ciucciù. Va bene, ci chiamo domani Marco al limite che ci prima qualcosa al paracicolo, mica dove va, ormai è chiuso domani la sera, ma non è di qui, dovrebbe essere chiuso, mi ha preso un amico comunque per quello. Ci facciamo un giretto in attina. Ah, oggi era domenica, giusto? Era domenica oggi, ieri era sabato, che casino, non ci sto capendo più niente. Sono così scombussolato questi giorni che... vabbè. Guarda, avere mia zia in casa è come avere muratori in casa, sono una dannazione. Non ti dà bene, invece mia sorella, mio quando viene qui cambiamo la cucina. Aspetta, stavo chiamando adesso, ma se mi passa un numero strano e sono già pensierocca, ma se cazzo vogliono questi, sembra saggesta mi sembra. Aspetta, c'è rientrato giù. Veglia? Sono qua, cazzo. Giuseppe va a far cura a lui, cazzo, ho visto un numero strano, pensavo fosse che cosa, l'ospedale, ma mi ero collasso, cazzo. Ehi, ma mi hai parlato di ospedale, di pronto soccorso, cos'altro è successo? Sì, perché cambiato i cartelli di sera, dal mezzogiorno fino alle 7 di sera, hai capito? Un casino, cazzo, perché non era aperto neanche l'ospedale, neanche a pronto soccorso addirittura, quindi ho dovuto andare in urologia, ne partito di nuovo che c'è lì a San Pietro e faccio cambiare, hai capito? E poi da lì torna di nuovo al pronto soccorso con l'ambulanza e poi l'ambulanza a casa, quindi adesso ogni 29 del mese mi tocca 30 euro pagare, andate e ritorno. E poi per fargli cambiare il cartettere, che ha fatto un sacco di casino. Ma sei solo? Posso parlare? C'è tutto a parlare, perché no? Ehi, ma perché tuo fratello deve tenere il catetere con la sacca, non usa il panno? Sì che c'è il panno, il problema è che gli hanno messo il catetere nel fianco sinistro del pisello, gli hanno toccato il pisello quasi a 2 cm dalle palle, quindi hai capito cosa gli hanno fatto. Era tipo cavallo appegnato, capito? Mamma mia, questo particolare, fanno sentire male certe cose. Ma come mai? Non ha, il pisello non c'ha la via naturale. Perché gli hanno bucato il lato? Mamma mia, roba terribile, guarda. Quando si parla di ospedale mi sento male, poi di quelle cose delicate mi... Ma non c'è speranza, no, che possa di nuovo camminare, ritornare normale tuo fratello, no? Spero di sì. Cioè lui non cammina perché? Perché è disabituato o proprio inabile più a camminare? Cosa... Come è messo? Come è messo? È messo nel senso che lui in pratica lì alla... camminava, la mettiamo nel sedile a rotelle e camminava con i piedi, e si muoveva con i piedi avanti. Dopodiché in pratica quando tu stai a letto per parecchio tempo, a un certo punto una rama, per dire, funziona l'altra, tende a chiudersi, capito? Lui c'ha una rama piegata, come se c'hai il nervo che si blocca, capito? E quindi adesso bisogna fare la fisioterapia, dopodiché saremo bene. Poi lui deve avere anche la buona volontà di voler guarire e di camminare, sperando che ce l'abbia. Mamma mia, guarda. Perché se non ha la buona volontà, tocchiamo ferro, la vita rimane così, la vita. Mi ricorda nonna, è che nonna non è che non avesse volontà, ma era, il fisico era talmente minato, no? Non ce la faceva più, e mia zia si incazzava, pretendeva che riniziasse a camminare col girello o cos'era, una cosa, e si incazzava. Mia nonna era Murindi, cosa pretendi che cammini? Carità, che razza di figlia mia. Mamma era molto più comprensiva, cioè capiva che non ce la faceva. Uff, non ci voglio pensare. Infatti, appunto per questo, mi rifiuto di tu, non facevo mai i miei è stato che stava la macchina a quest'ora, non c'era insulto, non mi fa per niente. Perché a casa di tornare di solito alle 9:30-10, non c'è neanche un car a baracchino, quindi figurati tu, anche se baracchino mi sono portato il crimine 9 giù, smante della barca, ma limite me ne sto ascoltando, io parlo qualche volta, ma non è che sia tutti i giorni, quello che è, non c'ho 5 minuti e parlo, però diventare scemo. Ma tu sei nella solita camera del baracchino, ma non dorme tuo nipote? E infatti qui vedi mia nipote, è in camera. Cioè vuole andare a dormire adesso, tu sei lì? No, già tranquilla, non è che va a dormire a quest'ora, non è che sta addio, dove è sotto mezzanotte, mezzanotte e mezza. Io sto facendo ben tardi. Io prima delle 3, se non delle 4, non riesco a dormire. C'ho il ciclo vitale tutto incasinato, perciò mangio a certi orari. Non si riesce a rientrare qua nella normalità, non si riesce. Vabbè che la normalità non esiste, capito? La convenzione, certi si devono alzare a tale ora, devono mangiare a tale ora, come le macchinette, capito? C'è gente a luna deve mangiare, non è che può, deve, se non muore, capito? Non sa cosa gli succeda. Io mangio quando ho fame, giustamente. Io se non ho fame a luna non mangio. Se ho fame alle 8 di sera, io mangio alle 8 di sera. Cioè cosa vuol dire che gli orari, boh, non le capisco, le persone dell'ufficio, mi sembrano delle macchine, dei robot, capito? Sì, tu sei che sei diverso dagli altri. Io sono. Se vai all'ospedale già ti cosa già alle 5 a mangiare da fare la cena Marco crocco. Ma tu che ti faccio agli altri certo, prende il giorno per la notte. Io sono migliore degli altri, io non ho i vincoli degli altri, io sono uno spirito libero. Tu sei diverso dagli altri, che è una cosa che cambia, capito? In tutto il mondo ci sono degli orari che si rispettino o non si rispettino, tu sei completamente diverso, tu fai colazione a mezzogiorno, pranzi alle 8 di sera e cena alle 3 del mattino, ma notti no. No, sono gli altri diversi da me. Ma tu non sei a dormire, ancora in occhi. Non sto ascoltando le tue coglionate. Certo, coglionate degli altri sono sempre coglionate. Beh, non mi fai venire sonno, sto aspettando. Ui. Ebbene, Pomponi oggi ha fatto un'eccezione, sta entrando al baracchino. Cioè io non... Sì, io ho degli orari miei, ho delle esigenze mie. Io mangio quando ho fame, non mangio orari. Ho detto, conosco gente, magari anziani, no, che all'una di mattina, no, e poi devono mangiare, devono, non è che posso, devono mangiare, se non è che ne cade il mondo. Quello io non, cioè, molti non capiscono come sono io, ma io non capisco quelli che sono tutti orari, che sembrano dei robot, mi hai capito? A quell'orario si mangia, a quell'orario si caga, a quell'orario si va a letto. No, non c'entra niente. Se per quello noi siamo diversi da grandi città d'Italia, capisci? Che tu guarda a Milano, a mezzogiorno si mangia, alle 7 si cena, e quelli sono gli orari e non c'è niente da fare qui. Anche io non è che ho degli orari, io ho pranzo anche alle 3, a volte alle 4 come l'altro giorno, non è che ho orario fisso, io sono al lavoro, quindi quando esco un pranzo, se poi sono a casa come oggi abbiamo pranzato alle 2, a volte prendiamo alle 1:30, a volte aspettiamo mia figlia, prendiamo alle 2:30, non c'entra niente. Però ci sono quelli che hanno l'orario fisso come le persone anziane, capito? Tutto lì. Vabbè, tenete dura, no, io stavo guardando la partita del Inter-Napoli, l'Inter ha perso di nuovo in casa, quindi può giocare col Sorso oppure col Castelsardo sicuramente. Dai, vi saluto, io domani lavoro, non mi gratto le palle come voi, ciao, buonanotte. Sicuro mi gratto le palle io. Casa tua qua. Oh Giulia, avevo il volume è alto perché Pomponio è quasi inascoltabile. Se sei entrato tu, ha rimbombato in tutta la casa la modulazione di Claudio, mamma mia. Vedi, per dire, anche tu hai delle esigenze in base al lavoro, in base a tua figlia che ora torna. Invece qualcuno deve arrivare a rifissi, anche gente che abitava qua e adesso non c'è più, no. A tale ora doveva mangiare, doveva mangiare, se no faceva casini, faceva casini. Poi, vabbè, la stessa persona voleva i piatti, guai a dargli i piatti, non voleva i piatti in porcellana, voleva la tovaglia vera, mai a mettere tovaglia in plastica, sai, con quelle pratiche, doveva essere la tovaglia vera col tovagliolo in tessuto. Un calcio in culo l'avrei dato, altro che. No, beh, con l'esigente non. Scherzo, lo sai, ognuno c'ha le sue esigenze. Tu pranzi a quell'ora, ceni a quell'ora, e vuol dire che il tuo fisico è così. Io per esigenze mie di lavoro non ho orari fissi, capito? Io esco alle 6 di mattino, faccio, prendo un caffè macchiato con una pasta e me lo porto fino a 9 e mezza perché poi non tocco altro. Quindi è chiaro che quando arrivo, se c'è da mangiucchiare, mangio anche se non è pronto quello che trovo. Però giustamente, come hai detto tu, uno mangia quando ha fame. Se tu le tue esigenze sono quelle, è chiaro che mangi a quegli orari, vuol dire che fame non ne hai prima, normale. E per me è un modo di dire, nel senso che domani voi siete a riposo, capito? Io purtroppo devo andare, devo uscire anche presto, quindi adesso. Pure domani ti fanno lavorare, il colmo, il giorno dei lavoratori, ma e quindi l'Inter ha buscato pure in casa. Che un po' giocare col sorcio così, mamma mia, com'è finita l'Inter. Vabbè. Ok, ciao Claudio, dai, buona giornata per domani. Sì, a me non, sai, io sono sempre stato contro moda quando c'erano le mode, sono sempre contro le convenzioni, con le cose, con gli stereotipi. Quando andava di moda un paio di scarpe io non le mettevo, vestivo come piaceva a me, non come dicevano. Invece gli altri, i giovani di allora, li vedevo tutti come pecore, usciva il giubbotto, tutti con quel giubbotto, ma ascolta, come le pecore, invece vestivo non piaceva a me per distinguermi dalle pecore, è tutto lì là. E così sono anche per il modo di fare, per la vita, eccetera. Bene, bene, ciao Claudio, dai, buonanotte, buon tutto, a domani, se vengo graziato la mia zia, perché mi sa che domani piomba e io volevo andare ad Antonello, mi ha detto di andare a pigliarsi una cosa da bere. Se posso scappo, dai, che qua sta diventando ogni volta, è come avere i muratori in casa, mi, la cosa peggiore del mondo. Facciamo una doveresa da Nicco. Beh, comunque domani mi pare che abbia dato tempo brutto, così stavo leggendo, non so, vabbè. Di nuovo, ciao, ci sentiamo domani, ciao. Ciao, credo domani, ciao. Sì, no, infatti no. Se vado ad Antonello andiamo al chiuso, qualsiasi bar che sia aperto, o il circolo anche va bene. Mamma mia. Bene, Antonello. E quindi tirando le somme. Passo, se vuoi uscire adesso, non c'è nulla da fare, me. Ci facciamo un giro, tanto questo è aperto Nicco, quindi ci diamo qualcosa da bere di due sera, non c'è problema. Sì, a quest'ora, me. Guarda, sono in pigiama, con le pantofole, i capelli scarmigliati, la barba lunga, anzi non mi sono lavato i denti ancora. Vengo così, così mi portano in psichiatria. Ma vai, cazzo, poi sei esaurito, sei guarda, vabbè, boh. Una cosa poi viene morta, tanto non è problema. Andiamo 5 minuti e poi ti venite a casa, cosa cambia? Io guarda, sono stata stamattina, la verità. può essere ancora aperto fino a luna, a luna e mezzo. Lui lo sai che è aperto, quindi se vuoi venire con me, costa niente di prendere qualcosa, sono tre fregate di denti. Se stai bevendo qualcosa, niente, ti pigli una mattutti e ti ammazza con vite e ti ammazza i così microbi. No, va bene, fate gli scherzi e non uscirei a quest'ora, dai. No, no, a meno che non andiamo a Mignotte, allora tutto cambia. Guarda, a Mignotte andiamo a Mignotte, lo sapete mica io. Cosa, praticamente è pieno qui, di cinesi. 10 minuti, 50 euro, cosa vuoi dire? Se ti costa, non ti costa niente. Basta trovare. guarda. Già ci vediamo domani, dai, spero che non piombi. Sono di Orico, devo uscire. Non è che sono obbligato a stare a casa perché c'ho gente. Mi scoccia un bel questa situazione. Anzi, speravo di finire tutto prima possibile, mettere a posto qua così, almeno. Ciao. Qua in casa, no? E c'è, a voi tirare le lunghe, si vuole inventare roba da fare. Anche l'altra volta è stato così, invece di fare le cose in fretta, si stava inventando di fare quella cosa lì, di costruire quella cosa lì. Poi mi ha costruito una, per la mia camera, una specie di, avevamo preso un puff, non so come chiamano, un puff le chiamano, no, sono dei piccoli, è un piccolo coso quadrato, no, morbido, tu ci puoi sedere, no? È senza schienale e poi diventa un lettuccio pieghevole, no? Una cosa veloce, no? Ci ha costruito intorno tutta una cosa di legno, la spalliera, le rotelle, insomma, una cosa, cacchio, me ne frega a me, andava bene così, bello, coso, no? Ci ha messo la spalliera, il coso, le ruote, pur di allungare il lavoro e rompere le palle a me soprattutto. E vabbè, mamma sempre non ci mette bocca e quindi ora fa quello che vuole. E già me ne immagino. Vabbè, io sto chiedendo, sentiamo al limite domani, se entri, chiamo i nominati appena si svegli, così andiamo direttamente a faccio un giro lì, tanto domani è aperto, quindi fregate. Sì, mattina, anche mattina, se mi alzano alle 2 di domani mattina, Antonio, se ci vediamo il pomeriggio, metà serata, domani mattina non ce la faccio. E dopo le 2, dai. Tanto domani mattina cambia tutto la questione del tram. Si chiama linea 25, adesso la mia, quindi va via l'Italia, va in giro strano fino alla Teloce, quindi non c'è problema. Quindi chiama quando vuoi tu, io sono a casa la sera, non ti preoccupare. Ehi, vabbè dai, poi già ti chiamo prima, almeno spero di avere credito per chiamarti prima. Se abbiamo pure il telefono isolato, te ne immagini. Col telefono fisso possiamo solo ricevere, quindi c'è il telefono non più usato in trasmissione, cioè per chiamare né internet, perché c'era scaduta la rata da pagare a metà mese ed eravamo già in penuria di soldi. Non ce l'abbiamo fatta a pagare tutto, o pagavamo la luce o pagavamo il telefono, e piuttosto che staccare la luce o fare la riduzione dei kilowatt abbiamo pagato la luce e il telefono, pazienza, poi già ci arriva qualcosa in più, il mese entrante dovremo stare bene per un po'. Sentiamo domani, dai. Riuscirò a chiamarti da qualche parte, non so come, non so se ho credito, perché mi sa che non ne ho nemmeno, quindi boh. Oppure passo direttamente e busso, non so che ti dica. Come vuoi tu, già sono qua a casa domani sera, non c'è problema. Ci stiamo domani, là. Buonanotte con tutto, a domani. Eia, ma prima, quando hai detto Giuseppe, chi era? Giuseppe Leoncino? Che ti ha telefonato? Eia. E come sta? Non entra più, non... un altro mi tolto tutto, non entra più. E cosa fa tutto il giorno? Cosa cacchio fa tutto il giorno? non si distrae col baracchino almeno. Si gatta le palle. Sarà grata tre giorni, poi viene l'orchidea, amico. Già lo so. Ho già fatto il giorno, fissare il muro. Almeno il baracchino sarebbe distratto un po'. Vabbè, peggio per lui, esco. Ognuno faccia quello che vuole. A domani, ciao. Ciao Marco, domani. Andiamo a domani.